Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero... con un numero quale? Perché se il numero parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. Se non conoscete numero, perché non fate un cazzo lì al sud, non ma, ecco, ma che cosa fa? Non fate vada, niente al sud e risponde con volgarità. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come se vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Credo di aver detto tutto. Darei adesso il via alle domande. Vedo prenotato Michele Esposito dell'ANSA. Io non so da casa, guardi Esposito, non riesco a comprendere bene le domande. È un po' disturbato il suo audio. Riprovi? La qualità dell'audio è pessima. È pessima, è pessima. Io non sono del gregge, io non sono stipendiata, capito? Io potevo essere stipendiata. Tu, caro Conte, ti devi vedere questo video, perché Emilia Clementi questa settimana farà i lavori e aprirà l'attività. Io apro il centro estetico. Se avete le palle, ristoratori, bar, parrucchiere, estetica, io schermata vado a lavorare, me ne vado a lavorare, non posso morire di fame, l'avete capito sì o no? Non mi posso indebitare più indebitata di come sono. Vergognosi, maledetti, è un popolo di burattini, di marionette, questo è il popolo di marionette. Allora popolo, non rompete più la minchia anche voi, dovete reagire, dovete reagire. Caro Conte, se mi fate a me la denuncia e mi viene la finanza, io denuncio te, la finanza, tutti, vi porto a Bruxelles, io vi denuncio per non aver preso le giuste precauzioni dall'inizio a gennaio. Io non sono del gregge, io non sono stipendiato. È normale. Io potevo essere stipendiata, ho rinunciato perché sono un'imprenditrice. Nessuno mi può togliere l'anima dell'imprenditrice. Io sono imprenditrice, sono esteta, sono artista. Stu cornuto e fradicio ieri degli artisti non ha parlato. Per loro gli artisti non esistono. Ciao ragazzi, mai duri come adesso. David, Natania, da Casa Parenzo. Sono Richard Benson e sto qui, libero da qualsiasi compromesso, da qualsiasi consiglio. A me non mi servono i consigli, non me ne frega un emerito cazzo dei consigli. Sì, io vedo molto negativo. Allora ragazzi, allora che carica ragazzi, che carica qui dal bunker, via Monterosa 91, 20149, vabbè non c'entro un cazzo, 20149, Milano ancora vivo e vegeto, vai. Ovviamente altro bunker, molto più protetto di questo, molto più sicuro, molto più accomodante. Oggi abbiamo visto scene incredibili, incredibili alla faccia di chi soffre. Ancora dal bunker, costruito ovviamente dai signori amici, anche miei amici, grandi protagonisti del Mossad, David Parezzo, vai. Buonasera, buonasera cari allora, amici, ragazzi. Un caro saluto a voi tutti e un caro saluto anche alla professoressa Nadia Urbinati. Ma chi cazzo è? Grazie, è una politologa, grazie per l'articolo che ha scritto oggi. Grazie per l'articolo che ha scritto sulla Repubblica di oggi. Grazie. Non leggo il cartaceo, si vede, come diceva Brunetta, si vede. Che fine ha fatto Brunetta, ad esempio? E il cretino. Ma che fine ha fatto il mitico? Allora, ragazzi, oggi ho visto la solita scena. Io vi dico solo questo, mentre i parrucchieri, gli estetisti, i baristi, altri esercenti possono ricominciare l'attività solamente il 1° giugno, se va bene, se Conte ce lo consente, se il signor Conte, grande nostro dittatore, mentre tutte queste persone qui soffrono, non possono aprire, molti falliranno, abbiamo visto oggi un signore. Tu soffri adesso, ragazzi. Soffro, certo che soffro. Questo francamente mi sembra troppo. Sono preoccupatissimo. Abbiamo visto un signore verso le ore 15. Ampiamente rifocillato, colazionato. Fare un collegamento per la trasmissione Tagadà col suo solito golfino Trussardi. Era Trussardi, l'ho riconosciuto. Trussardi. Ho visto anche un carré di dolci. Ma non c'era nessun carré di dolci. Ma che cazzo dici? Ho visto un frame con uno che portava un carré di dolci. Ma non c'era nessuno. In ogni caso, parrucchieri. Parrucchieri soffrono. E questo signore riceve tranquillamente il suo bonifico mensile. Questo lo dovete sapere. Come qualunque lavoratore italiano che ha la fortuna di lavorare, col culo al caldo e con i collegamenti per Tagadà, tranquillamente con golfino di Tussardi, come se nulla fosse. Sorridente, ridente, ma come se non ridevo per niente. Ti sei preso a ridere mentre, ripeto, tutte queste categorie non possono fare. Fate sentire le parole, poi ti prendi pure gli apprezzamenti di un virologo, non so che cazzo era in collegamento. Ah, sì, bravissimo, si chiama Broccolo. Molto bravo. Però come cazzo molto bravo. Broccolo. Bravissimo, che no, adesso non dire, una persona straordinaria, un grande scienziato, bravissimo quello. Bravo scienziato. Chissà perché lo dici, sentiamo. Parenzo dice sempre cose intelligenti, lo attaccano sempre, ma dice sempre cose molto intelligenti, è vero. Mettetelo nella sigla, per piacere, questo. Ricordatevelo, un grande medico italiano, i complimenti di Broccolo, grande professore, uno dei più grandi, un stimatissimo professore peraltro. Sì, cioè, cambiasse cognome, professore. Broccolo è terribile. Ma cosa c'è? Tu chiami Cruciani? ovvio. Allora ragazzi, dove siamo qui? Siamo con Feltri, è tornato di nuovo Feltri all'attacco, diciamo la verità. Anzi, prima vi voglio dire una cosa, questo è il governo che ieri parlava di congiunti e solo di congiunti fino al 6° grado che si possono incontrare, cazzo vuole incontrare un cugino di 3° grado? Ma che cosa cazzo me ne frega? Che ho detto meglio oggi la mia, a Tagadà, meglio la mia, come cosa, dire, meglio una puttana che conosco magari da diversi anni piuttosto che un parente anche di secondo grado, ma per dire, ma no? Perché mai? Uno ma prova perché mai? Più affetto magari per una puttana che frequenta piuttosto che con il parente di terzo grado. No, succede, dico, può succedere questo. Ma allora, nel mondo tuo, perverso, di pervertiti. Aspetta, fino a oggi avevano deciso, fino a qualche minuto fa, avevano deciso questa cosa qua. Cioè si potevano vedere solo all'interno della regione, altra follia. Se un mio parente sta, che cazzo ne so, sul Garda, a Milano, a Vicenza, a Venezia, ma io purtroppo i miei genitori non li posso ancora vedere. Ma è sbagliato, basta, prendi il treno con la sicurezza, vai a vedere. Ma rischio di infettarli, però. Potrei essere un portatore sano, come tutti potremmo essere. essere sempre portatori appunto, sani. Per bisogna altri avere grande mesi, cautela. Grande dieci, cautela sempre, bisogna avere. Sei grande peggio, cautela. Sei peggio di Rezza. Sei peggio di questi qua. Sei peggio di, come si chiama, di Brusaferro. Sei il sergente di Brusaferro. Tu sei il capo di Brusaferro. Ma no, sei ma io il capo, ci tengo alla Berlusconi, salute dei miei sei cari. Sei il capo di Brusaferro. Io ci tengo ai miei, io ci tengo ai miei cari. Allora, ad esempio, se dovessi andare a trovare un fascista, non avrei nessun problema. Andrei immediatamente. Tu mi dicessi, no, ma no, ai miei cari non vado a trovarli. Ma perché? Perché rischio di essere un portatore sano, no? Come si dice. Invece, qualora mi dicesse un fascista, vieni a casa mia, certo, arrivo immediatamente. Ti porto anche i bambini, se vuoi, caro. Guarda, ti porto anche tu i bambini, se vuoi. Ai fascisti, un COVID non farebbe male, diciamo. Ma no, ma adesso non volevo dire, dico che non, cioè, no, no, avrei meno scrupoli. Vorresti, ho detto che avrei il contagio meno, tra i fascisti. Avrei meno scrupoli, cioè, meno scrupoli, diciamo. Tu stai dicendo questo che non, se ci fosse un'epidemia di mai... COVID tra i fascisti no, italiani. No, quello per carità non sia mai. Quello ho detto, bisogna essere. Vabbè. Ma quello per carità, non si augura. Comunque, nessuno, per ragazzi, carità. Fino di Dio. A pochi minuti fa la situazione era questa. Tu potevi vedere all'interno della regione i congiunti. La grande novità della fase 2. I congiunti o i congiuntivi? No, i congiunti. Poi a un certo punto hanno deciso, hanno deciso. Giustamente, naturalmente, hanno deciso. Dice, rivolta della gente, ma come cazzo uno è fidanzato? Cioè, se uno è un fidanzato, anche là, l'affetto stabile, che chi lo decide cosa l'affetto è stabile? Stabile? Io posso conoscere beh, una persona da una settimana, cosa, da un mese, ed essere impazzito per una persona. Che come cazzo tu, lo valuti? Ma tu questo? Non hai affetti stabili. No, ma tu in generale. Tu non hai io dico in no, generale. Ma tu non hai affetti no, stabili. No, ma io parlo, ma io non veramente. Hai... Non sto parlando seriamente, Davide. Se tu hai conosci una ma ad esempio, quello che ti veniva a fare casa, quello lavorava in nero, però, scusami. Oh, vero, scusa. No. Siamo in diretta? Siamo in onda? A cagare. No, oddio. Quello che lavorava in nero, ma non siamo in onda, vero? A casa tua. Che ma fine ha fatto nero? Quello che lavorava in nero? Nero? C'era uno che lavorava in. Ma siamo in diretta o no? Oh mamma, allora, scusami. Ragazzi, se uno ha un affetto stabile, come fa a saperlo? Cioè il poliziotto che ti controlla. Fa? Dico, sono andato no, da. Beh, glielo dici, vado dalla mia fidanzata con cui sono andato da uno. Tempo, sì, ma che e dunque? Giuseppe, scusa, io dico a Davide una cosa. Io sto a Milano, la mia compagna sta a Verona e non scopo da due mesi. Non quindi puoi. Che vada a fare in culo, David Parenzo, cortesemente. Ma tu stai in Veneto, scusa, lei sta in Veneto. Sì, ma capito, io sto a Milano, ma lui è a Milano, ma devo andare a Verona ma giustamente in due a trombare. Se non potete, ma non potete, chi cazzo lo decide questa follia? Attrezzati con Mercù, attrezzati. Siete incredibili. E un trombamico? Scopri un altro mondo. Perché, Poli, no? Perché non scopre un altro mondo? Magari gli piace. I trombamici. Usi questa occasione. No, ma no, che trovi? Usi questa occasione, scusami. Magari per avere una relazione con un uomo, no, con Mercù, che gli frega. Sì, giusto con Mercù. No, però, faccio per dire, uno si deve mettere anche delle condizioni, no, di cambiare se stesso. Gli scopamici, no? Gli scopamici, perché non sono no, previsti no, da questo? Non, perché cioè, no? I termini uno... usassero termini normali. Oh, usassero termini come fai a del popolo. In un decreto? Sì, in un decreto dovrebbero mettere gli scopamici. Cazzo, almeno la gente lo capisce di più. Ma cioè non gli affetti neppure stabili Trump. Gli affetti stabili, le relazioni stabili, ma che cazzo le decide? È meglio dire gli scopamici. Ho uno scopamico a Sondrio, e dico a Sondrio, vado a trombare a Sondrio. La gente lo capisce, è normale. Poi succede lo stesso, perché succede lo stesso. Ma volete scrivere la parola scopamico? Così il 50% della popolazione, quella più giovane, comunque non capisce. Comunque ti do una specifica, segnalato comunque ti do una specifica che ti farà ancora più arrabbiare. Me l'ha segnalato Natania in questo momento. Hanno appena detto che chi lavora non può vedere persone fragili. Non ho capito. Ecco, questo... Chi lavora che cazzo, non può vedere persone fragili. Cioè io che lavoro non cioè posso... non può vedere persone fragili. Cioè se tua mamma ha 80 anni non la puoi, anche se è nella stessa città. Ma fino a quando? Ma questo fino a quando? Questo è una, fino guarda, a è una breaking news. È ma una breaking news che mi è appena arrivata. Ma che Natalia, ma che... Parenzo dice sempre cose intelligenti. Lo attaccano sempre ma dice sempre cose molto intelligenti. Comunque sei veramente sei il manutengolo di Brusa. Mi suggeriscono sei il manutengolo di Brusaferro. Sei il manutengolo di il capo di Brusaferro. Ma perché fai sei? Tutte queste invettive tonitruante? Ma perché fai queste perché sono in realtà tonitruante. Perché un governo, quanto ti piace la parola tonitruante? Sì, bellissimo, un governo, queste inventive sì, tonitruante. Un governo così inabile che dice una cosa la sera prima, dopo averci dopo, insomma c'è stato il tempo di pensarci a questa cosa qua, no? Di chi puoi vedere e chi non puoi vedere a questa fase 2. Dicono i congiunti e poi il giorno dopo i fidanzati e gli affetti stabili. Ma che cazzo è? Ma che governo è? Cosa scriveranno domani quando metteranno nero su bianco nelle loro cartuccelle del cazzo puoi vedere l'affetto contatto stabile, ma... se dimostri di stare insieme da un mese e mezzo, ma ci vuole un po' se di sei buon senso, oltre un mese fratello, e mezzo, caro, ma... siete dei pazzi burocrati che avete rotto ma i coglioni. Chi? Voi, ma tu, il capo di Brusaferro, ma il Marutello di Brusaferro e il leccapiedi di Conte. Fermi tutti, che c'è? Ma no, pensa, no, non vedo un cazzo. Soltanto aggiungiamo anche la possibilità di spostamenti mirati per far visita a congiunti. Saranno visite mirate fatte nel rispetto delle distanze, con l'adozione delle mascherine e quindi con divieto di assembramento. Non stiamo dicendo che sono d'ora in poi consentiti dal 4 maggio party privati, familiari, ritrovi di famiglia. Ma c'è il problema anche del budget! Oh. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Matteo! Parenzo nel terrazzo di Tagadà col suo golfino di Trussardi, davvero radical chic di sinistra. Vergogna, vergogna, quando la gente muore di fame, lui è nel suo terrazzo a Roma Prati col golfino di Trussardi. E la gente muore di fame? E la gente muore di fame? Però ragazzi, te le cerchi pure, ragazzo, eh. Cioè, te le cerchi... dici, io posso apprezzare, tu? Posso apprezzare la tua, posso apprezzare in realtà il tuo senso della, il tuo senso della così te ne fotti, cioè te ne sbatti i coglioni. Dovrei... Ah, scusami, perché non ho capito. La gente non sta bene, no, quello no, no. Però, pago sai, le tasse, però sì. Sai, però ho sai, ho uno stipendio e ho un maglioncino però che non, sai, non posso, ma è sempre lo stesso però, peraltro, sai, c'è sì, la cosa che la gente non nota, no, peraltro, sempre quello, una serie, ne avrai che... una serie, però ne avrò 10, 12, non lo so appunto, quanti, ma insomma sempre tutti blu, e poi tra l'altro questa cosa firmata qua, una cosa orrenda, le cose firmate, ma che ho terribili da tantissimi anni, sì, non però, compro vestiti da sempre, in questa fase, in questa fase far vedere un terrazzo con tanto di, ho visto molto curato, molto curato, tu, con curato dei, lo curo con dei io, fiori, con delle cose, tutto il giorno, lo spazio, lo, curo io il lo spazio, il lo sorriso, il sole, la faccia baciata, non baciata. Ma non rido, ma ti mando a fare in culo, che sorriso è? Che dici? Ma che dici? Non è bello, non è bello quando poi ti trovi pensa di fronte alla realtà. Piuttosto la realtà. Alla gravità di quel dipendente cingalese che hai in casa, pagato in nero, e che adesso non solo fai venire con la metropolitana senza avergli neanche comprato una mascherina, perché quando lui pulisce casa tu sì vai nel tuo terrazzo e non ti fai neanche vedere, perché non lo puoi neanche guardare in faccia perché hai paura che ti contagi, tu sei chiuso nel tuo terrazzo e quel povero dipendente, no, è stato non riconosciuto, è stato semplicemente invisibile, è stato semplicemente defenestrato. Qui, ecco, quindi arriviamo alla notizia, il tuo dipendente in nero ora non c'è, no, più, questo è il punto. Perfetto, l'hai allora indirettamente confermato. Brugnaro, sindaco di Venezia, avanti tutta. Che cosa dice? Andiamo poveretto fuori, aprite tutto. Brugnaro si esprime, come dire, in un dialetto, no? In una forma dialettale. Veneto, molto... Veneto. Senti. Penso che se riesco questa sarà l'ultima trasmissione che faccio, perché dove? Insomma adesso veramente voglio che la gente si liberi e vada fuori, perché insomma siamo stanchi di stare a casa, di continuare a sentire le ordinanze, mascherine, questo posso andare, di quando te mando il drone, cioè secondo me sta cosa sta prendendo veramente un aspetto kafkiano e ridicolo, lo dico veramente fuori dai denti, cioè io ho cercato tutti i modi di resistere, però comincio veramente a essere stanco di questa roba qua. Ma chi risponde? Tutti sono stanchi, ma che discorso è? Ma chi risponde? Cosa vuol dire? Ma tutti sono stanchi, avanti, certo, tutta, avanti tutta, aprite tutto. Aprite tutto, scuole, asili, fate con tutte quante la prudenza del caso, si fa a turno, si tolgono i picchi, si fanno tutte le attività più regolari e legittime dal punto di vista sanitario, ma fate tornare le persone, fate aprire il bar che magari di un caffettino con col bicchierino a uno che viene dentro uno per volta, come si entra uno per volta in macelleria, si entra uno per volta al bar. Sarà centenare oggi, sì, domani vedremo, e uno è là che prega se può aprire l'attività, tanto il muore di fame, c'è cose che è incredibile, insomma. Adesso si è capito che siamo una curva discendente, bene, non c'è da fare trionfalismo, no, faremo anche questo numero di morti, però conteremo quanti morti sono successi l'anno scorso e quest'anno, faremo sti numeri, perché speriamo che non sia tutto un bluff sta roba qua. Ho capito, ma sono stanco. È stanco, dai, Brugnarone, stanco, dai. È stanco, dai. Qui ci stanco. Vuole un minimo di responsabilità, perché la gente è morta davvero, eh. Non è che adesso improvvisamente puoi dire allora tutti liberi, tutti via, perché la gente è morta davvero. Bisogna essere seri. Allora, un amministratore bisogna dovrebbe seri. Dire: bisogna essere seri. Bisogna essere seri. Bisogna, lui sì, dice, non è che un amministratore dice apriamo. Io, certo, lui dice, sì. Bisogna può essere giusto quello sul che lui dice sui bar. Di casa, terrazzino di casa, ma no, bisogna ma non c'entra seri. Dove per essere seri, dice. Non devi essere sul terrazzino di casa, questo è sicuro. Niente. Dove devo stare? Porro, dai, fatemi caricare con Porro che mi carica. Ecco, non altro, miliardario. No, miliardario vai, vero, la carica, quello. La carica. Ma la carica, carica è miliardario ieri vero? Ieri a caldo, miliardario ieri a caldo. Vero, comunque io ancora non ho capito perché non si inserisce nelle specifiche di questi cazzo di regolamenti burocratici che ci faranno nei prossimi giorni. Io mi metto nei panni dei carabinieri, dei poliziotti, li abbraccio tutti, quelli che mi stanno ascoltando, e sono tantissimi sicuramente. Perché devono poi andare a vedere tu? Da quanto tempo stai insieme a questa? Ma non lo chiederanno mai, ma non è così. E allora dove che buffonate, dalla non mia lo fidanzata, dire, dalla non mia lo... fidanzata. Ma che cazzo vuol ma dire? No, uno lo può per dire non sempre, dire liberi no. Tu, è per non dire che uno deve girare a vuoto della città, per la città o va a trovare un amico, meglio di no. Noi permettiamo di andare ai funerali, ma non possiamo essere più di 15 ai funerali, quando oggi avranno permesso di andare alla festa della liberazione in 50. Ma lascia perdere la polemica, non me ne fotte nulla della festa della liberazione, è il principio, non voglio il Presidente del Consiglio che dica in diretta televisiva noi consentiamo di andare a più di 15 persone. D'altronde è stato esplicito il Presidente del Consiglio, il regime degli spostamenti resta limitato. Io non accetto che il regime degli spostamenti resti limitato. Ok ragazzi, la realtà è una sola, usate parole più semplici. Io ripeto un invito che faccio all'inizio di questa trasmissione, di questa lunghissima trasmissione. Parezzo stasera andiamo in onda fino alle 22.50, non lo sai, no, scherzo, naturalmente. Fino alle? No, scherzo. Però posso dirti, un crimine, inserite la parola scopamici. Parole moderne, non relazioni stabili. Ma in un decreto, ma sì, poi proprio lì, mai ma che sti decreti? Cosa, basta con ste leggi. Ma che cosa sono i decreti? Dai, i decreti non fa ascolto. Ma non puoi ragionare tutto il decreto, dai, la parola decreto, dai, che non funziona. Su, come si fa in prima serata su Rai 1? Il decreto, dai. E che bisogna fare? Secondo te, che cosa bisognava organizzare? Ma andava fatto un grande happening, naturalmente situazionista, dai. Conte che andava in giro per la città porta a porta a raccontare naturalmente i cambiamenti. Ma è la parola decreto, sì, dai, giusto, che non funziona, giusto, sì. Brutto, respingente, cioè, dai. Conte doveva andare porta casa, minimo, per casa per casa, casa per casa, come faceva Berlinguer, casa per casa, strada per strada, dai, lì con la scrivania, con la bandiera dell'Europa, poi dai, che non funziona, non fa ascolto, non c'è naturalmente nessuna tensione narrativa, naturalmente, no, nessuna sì. Tensione, la televisione funziona perché uno dice mamma mia cosa sta per accadere, naturalmente i miei programmi erano tutti vibranti perché naturalmente dici, una muore un anziano, muore un anziano, dai, quello fa dramma, ma è realtà, cioè, Conte realtà. Che racconti accanto muore uno in un centro covid, diciamo. Dai, quello naturalmente nel dramma, ma naturalmente documenterà la realtà, quello naturalmente. E che cosa documenta? Una scrivania, naturalmente, con delle bandiere, un signore che per 32 minuti non è televisione, dai, io avrei spento subito, ma come si fa? Dai. Marco da Bologna, vai Marco, dimmi, Marco. Ciao, Saltone. Dimmi. Ciao, Saltone. Non sento, Andrea da Milano, Andrea, dimmi. Ciao, dimmi. Allora, il problema è questo, io sono a Milano dal primo di marzo e ho il domicilio qua. Sì. però ho la residenza a Genova, mia mamma è invalida al 100% a Genova. Sì. Devo ci puoi andare. Ci posso andare? Ci puoi andare, perché sì, per assistenza puoi andare. Puoi andare anche puoi ritornare, perché per assistenza a una persona che ha bisogno ci puoi andare. Per l'emergenza Covid mi hanno detto che in effetti potrei essere formato al ritorno. Perché se amico mio, però ci puoi andare. Posso dirti una cosa, Andrea? Baci, per quello che ho studiato baci, e letto, io ci puoi andare. Baci, lo chi se ne frega, baci e chi se ne frega. Devi portarti dietro la carta. Ma cosa succede? Ma no, che verbale? Ma mandare che sei stato dalla tua mamma, certo. Fare una delibera fin no, dall'inizio. verificheranno che la tua mamma sta davvero male. E quindi con i certificati medici della tua mamma tu sarai Alessio tranquillo. Da Torino, Alessio da Torino, pure secondo me. Alessio, ma non è che qui sto, questo è lo sportello. Studiato nel dettaglio, abbiamo studiato, dai, che funziona anche questo. Pronto? Dimmi. Allora, dammi un attimo 30 secondi. Allora, io trovo assurda questo cazzo di divieto di spostamento tra regioni per andare a trovare, che so, il partner, ad esempio. Adesso tu mi devi dire che cazzo cambia se io mi metto sul treno, vado nella cazzo di appunto, regione sul dove treno, sta la persona bravo furbo, X, no, bravo furbo, sul X treno, devo incontrare faccio la quarantena là. Alessio, hai perfettamente ragione. È tutto affidato a queste norme assurde. Tu giustamente dici, e sicuramente la situazione è questa. Tu hai probabilmente una fidanzata, un amante, una tromba amica, una persona che, con cui vuoi stare, che non so in quale regione, sei a Torino, evidentemente ce l'hai in Lombardia, in Liguria, non lo so, in un'altra regione italiana, giusto? È così? Sì, fuori, eccetera, e lui ci vuole andare, ma qual è il problema? È una persona evitare responsabile. Spostamento si mette, di massa. Giuseppe, una cosa si mette prima lì di a casa, trombano, stanno bene, stanno Giuseppe, tranquilli, non rompono i coglioni a nessuno. Chiudere. Dai, dimmi. Una cosa prima di chiudere. Sì. Questo fatto, ieri lo hanno detto soltanto Porro e Sallusti, adesso io voglio chiedere cosa? Questo fatto cosa? Dei partner fuori regione eccetera eccetera. Ma no, ma è adesso, fondamentale questa roba qua, ragazzi, ma di cosa parliamo? Ma è ridicolo, siamo chiedere un paese da barzelletta. Si sposa in Germania, ci sarà il momento quello. Ma avete visto, zitti tutti, ma avete visto, ragazzi, le immagini della Germania di ieri, le immagini di Berlino? Ho visto delle immagini di Berlino incredibili, con gente nei parchi tranquilla che circolava, con le distanze, tedeschi, con le precauzioni. Mi ricordo il mio amico che aveva 21 anni, poraccio, è morto con un incidente d'auto. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Boss mafiosi scarcerati, zingari che uccidono sbirri. Ehi, la fase 2 è proprio cominciata. Siamo tornati. Ah, ovviamente il tutto senza poter trombare, vero? Che non ci sbagliamo. Parenzo dice sempre cose intelligenti, lo attaccano sempre, ma dice sempre cose molto intelligenti, è vero. Tutto questo, alcune edicole al sud hanno deciso di non vendere il suo quotidiano. Per lei diventa un danno? Che non mi sembra, non credo che sia un provvedimento legalmente concepibile questo. Però diciamo che al sud, non in tutto il sud, ma in parecchie zone al sud, noi, i giornali del nord vendono pochissimo, ma vendono pochissimo anche quelli del sud, quindi sappiamo che la lettura non è la principale attività in meridione. Ma come si permette? Questa è l'intervista che ha fatto ieri per Non è l'arena di Giletti. Mi era sfuggito questo, ma come si permette di dire una sciocchezza simile? E poi in realtà non è ma vero. Ma scusa, perché... ma i grandi scrittori, ma Luciano De Crescenzo, ma è un popolo di lettori veri. Ma di che parliamo? Quanti sono gli scrittori meridionali? Ma Sciascia dove lo mettiamo? Ma di che parla? Ma per dirne qualcuno, Gavino Ledda? Leggono poco. Comunque, ragazzi, torniamo a bomba sul caso Feltri, che certamente non è finito. Ti difendiamo noi con Manconi a buon diritto. Attacca il tuo amichetto. Di che ha detto una. La slinguata la fai tu con Feltri, che gli lingui in bocca tutti i giorni pur di non dire che sbaglia. Feltri. Abbi coraggio di dire ha sbagliato. Feltri. Guarda, ma che l'ho già detto, ne va della tua scorsa, dignità. Ne va della tua dignità. Diglielo inferiori, in faccia. La parola devi inferiori dire. Detta così non ha senso. Se uno perché poi... così non ti offre più il pranzo, non ma ti paga più il pranzo, cazzo, vero? Non vi bevete il cicchettino di vino, non vi bevete più il vino insieme, eh? Il whisky a pranzo e a cena non vi bevete. Ma io il whisky non lo bevo. Tutto per un piatto di pasta. Te lo paghiamo noi di a buon diritto. Noi con Manconi. Te lo paghiamo noi il piatto di pasta. Basta, non ti preoccupare, di che Feltri sbaglia. Mandatemi Feltri, non voglio sentire questa cornacchia maledetta, vai. Le sue affermazioni sui meridionali hanno scatenato un putiferio. Sì, perché la gente non riflette. Io voglio dire, mi riferisco al portafoglio, non certo al cervello, anche perché io non faccio i test di intelligenza a nessuno, non sono in grado di farli. E poi conosco tanti coglioni anche nella Bergamasca, dove io sono nato, quindi so benissimo che non si possono valutare le persone dal punto di vista morale e culturale. Signor Fede, ragazzi, comunque diciamo la verità, dire inferiore a qualcuno, poi specificare, spiegare, eccetera, lo state massacrando, siete peggio voi che gli avete detto razzista. Vittorio Feltri è tutto tranne che razzista. Ma lo avete dipinto come un razzista, infatti, come un criminale. Una stronzata, come ma sempre, dai, gli capita su, ormai. Dai, come se io lo dicevo, come sempre gli quando disse gli immigrati portano le malattie, titolo è un luogo comune dietro l'altro. Sulla frase della cosa andiamo a fare in campagna ai parcheggiatori abusivi. Ma è chiaro, perché ma anche lì bisogna tener conto. Cioè, io per quale motivo dovrei andare in campagna a fare che cosa? Il mio lavoro è qua, non posso andare a Napoli per non trovare un lavoro e magari fare il posteggiatore abusivo. Perché non ci sono i posteggiatori abusivi a Napoli, me li invento io, anche quella è un'offesa. Abbiamo fatto puntate su puntate. Ma è un luogo comune dire, ma voglio uno può andare a Napoli a lavorare da marinella, ad esempio. Incredibile, perché non ha detto io vado a Napoli a lavorare da un grande industriale come marinella? Ti ritrovi a fare il parcheggiatore abusivo. Ma dai, luoghi comuni, luoghi comuni. Perché il posteggiatore abusivo a Milano non c'è, ma vergognatevi. Non c'è il posteggiatore abusivo a Milano. Posso dirti una cosa? Sono molto più razziste, violente e discriminatorie le cose che sono state dette su Feltri in questi giorni piuttosto che rispetto a quello che ha detto lui. Ma non c'è il soccorso, te la pago io la cena, non ti preoccupare. Te la pago io se lui non te la offre più. Non mi verrà a dire De Magistris che la situazione al nord è ridicola rispetto a quella del sud, perché non è vero, è semplicemente fattuale dire che il sud ha ancora dei margini di arretratezza che sono riconosciuti dagli stessi signori che abitano al sud e anzi se ne lagnano giustamente. A me mi piace l'espressione degli stessi signori. Un'espressione meravigliosa. Ci sono anche dei giornali del nord che hanno una certa arretratezza culturale. Possiamo dire questo? Che ci sono alcuni giornali del nord che hanno in particolare nella testata un cavallo alato, in particolare, che sono governati da persone, ragazzi, che hanno insensatezza culturale. È una cosa molto seria. Avete visto oggi che cosa è successo? Sicuramente avete letto tutti cosa è successo a Napoli, dove un povero poliziotto con moglie, figli, eccetera, eccetera. Ma quella è una tragedia umana. È stato ammazzato, una tragedia incredibile. È stato ucciso da un criminale, da un gruppo di criminali, mentre tentava di sventare una rapina. una rapina. Posso dirti chi sono gli autori della rapina? O è per te solamente un caso? No, posso no. dire chi sono gli certo. autori della rapina senza certo, che ti scandalizzi? Certo. Sono dei criminali. Sono no, dei criminali, ma senza punto. Che ti scandalizzi, sono si può anche aggiungere che oltre ad essere dei criminali, criminali, criminali. Vengono anche da un campo rom nei dintorni di Napoli? Sì, si può dire o non si certo. può dire? Ma puoi dirlo, ma sono criminali. Me lo fai punto. Dire o non me lo fai dire? Ma mi pare che tu lo posso già detto, aggiungere o no? Lo posso aggiungere oppure non è consentito. Sono dei criminali. No, ma non me lo fai aggiungere. Non me lo fai aggiungere. Non me lo fai aggiungere che vengono da un campo rom e sono probabilmente. L'hai appena detto. Non me lo sono stai facendo aggiungere criminali. Perché pensi che sia razzismo dirlo. No, perché non è razzismo. Io dico che sono dei criminali. Sono dei criminali. Senza se e senza ma, ovviamente. E non me lo fai dire, va bene, hai detto solo che sono dei criminali. Ma l'hai appena detto anche dei criminali pazzo, Rom, il mio stesso artificio retorico Rom. Sono dei vabbè. Criminali. Sono dei criminali. Telese su Facebook. E arriva Feltri e dice che sono inferiori, ma sono rancorosi, ma stiamo scherzando. Luca, allora, c'è un razzismo in questo paese di cui Feltri si è Luca. Fatto portabandiera, non è un episodio, ma non no. ha dato di matto, ma ha detto una cosa che purtroppo molti pensano, la ve premessa, lo dovete togliere dalla la testa. La premessa è... Attacco, all'attacco Telesone. Posso all'attacco, dirti, Telese che dice Feltri, all'attacco Feltri Telesone, porta bravo. Bandiera del razzismo è veramente ridicolo. A testa bassa ridicolo. Telesone, molto Feltri bene Feltri porta Telesone. Bandiera del razzismo, ma che cazzo dici? Ma non beh, lo conosci, non è il primo, ma quale non è porta il primo bandiera, titolo razzista che fa. Non è il primo titolo razzista che fa. Gli immigrati portano le malattie? Gli immigrati portano le malattie? Elvira da Roma, dai, su, ma potrebbe essere lui, anche fattuale. Sì. Elvira da Roma ma in fattuale alcuni casi. Un corno, a testa bassa Telese, a testa bassa, vai a testa bassa Telesone. Vai, vai. Dimmi, dimmi Elvira, dimmi. Io dovevo soltanto dire che non approvo questo attacco continuo al governo che sta facendo il possibile. Ma chi? Ma qua sta facendo io il possibile? Io vorrei che mi presentasse qualcuno, dal momento che tu sei conosci un sacco di gente, un sacco di politici, che sappia fare di meglio. Ma non e lo sarei so. Prontissima. Io il suo vedo amico che Salvini, tutto il mondo sta facendo gli stessi sbagli. Ma cosa sta facendo? Ma cosa? Cosa che c'è un sacco di gente in mezzo a una strada che non vede un euro da ma due mesi? Cosa vuol dire? Da due mesi. Che dici Elvira? Cosa ma dici? Che cosa dici? Dire? Questo. Che colpa ne ha questo di trovarsi a capo adesso di una cosa che nessuno può gestire è arrivata, bene? È arrivato Elvira da Roma a difendere il governo. È arrivata Elvira è da Roma a difendere il governo. Sei non incredibile. È assolutamente una difesa, è soltanto una constatazione che non c'è nessuno che sappia fare meglio. Che vogliamo che, dire? Che per so, sconfiggere questi, il virus siamo, questi... facciamo come Trump, bevetevi la varichina? Non è possibile. Ma quella era una bellissima battuta, stupenda, bella, sì. Iniezione di come disinfettante. Quella che state facendo voi dicendo che questo non fa niente. Ma chi è che fa meglio? Elvira, Elvira, dimmi. Se tu vuoi fare l'avvocato, la signora Elvira, che sta rintanata nello suo sgabuzzino, non so dove, a Roma, eccetera, nella sua casa, ed è una portabandiera di Conte, non io riesco. Io una portabandiera di Conte, ma quando mai? Sì, sì. Ma non esiste. Ho detto il governo in generale. I governi tutti stanno facendo sbagli su sbagli, tutti. E questo, di questo cosa, parliamo. Perché è una cosa a cui non siamo preparati nessuno. Vabbè, se buonanotte. Tu conosci qualcuno che sia più bravo. Ciao, per core. Favore, ma no, ma non lo so, più bravo. No, noi giudichiamo quello che abbiamo davanti. Non è che possiamo dire agli altri avrebbero fatto meglio. Non lo so, non si può dire questo. Il via, rotto cazzo. Ma lo stiamo dicendo per sempre. Vabbè, ma rotto il cazzo. Non dai. Fai niente e gli altri valgono qualcosa. Mi hai rotto le balle. Fatto meglio. Mi hai rotto le balle. Ciao, ciao. Anche a me è meglio te. Per dare una sintesi ad Elvira, vi dico solo questo: funerali sì, matrimoni limitati naturalmente, matrimoni e messe no, matrimoni e messe no, con proteste beh, naturalmente certo, dei vescovi, parenti, uno può aspettare parenti stretti, no, no, no, certo. Va benissimo, parenti stretti, mariti e mogli sì, ma fidanzati no, anzi sì, anche loro, ma niente storielle passeggere, Ma ragazzi, gli amici invece no, la sintesi è questa, la sintesi. Questo è i rapporti stabili, ma niente, se dovete andare a trovare qualcuno con cui avete una storia alla passeggera, no, non si può fare, deve essere stabile la cosa. E gli amici no. oppure anche loro magari domani rientreranno. Ma io, ma secondo te la gente non ha voglia? Ma secondo te nessuno ma tutti noi abbiamo voglia di tornare a una vita normale? No, ma io sto giudicando la ridicolaggine di queste cose, Marco, con gradualità. Questo è il tema. Secondo te cosa avrebbero dovuto dire? Apriamo tutto da domani, tutti a Marco, ognuno per i cazzi sì, propri. Ma almeno, almeno non raccontate, non venite hanno voluto far passare questa settimana così noi discutiamo di che cosa sono i congiunti stretti, gli affetti stabili, così ci divertiamo. Ma no, hanno già per una settimana chi sono. No, perché davanti a un poliziotto che cosa cazzo dici? Vado a trovare la mia fidanzata. Ma gli dici che stanno dalla mia fidanzata? Allora, appunto, certo. Allora, non è che c'è molto. Ma Marco non è tutto. Si spera che le persone abbiano anche un minimo di senso civico. Marco, certo, dimmi, non è che dimmi. Si può normare tutto. Dimmi Marco, dimmi. Mi senti? Ti ho sento. Intenzione di procedere ad una segnalazione scritta nei confronti del conduttore Giuseppe Cruciani, sì, e della sua spalla David Prenzo, conduttore questo della trasmissione Radio Bar in onda tutte le sere da lunedì al venerdì. Perché? In questa trasmissione si parla di argomenti, sì, e dati lesivi della psicologia dei minori. Ad esempio, vero, nel libro l'intervista di sedicenti pornostar. Aspetta, dove si parla di riferimenti espliciti ad immagini pornografiche, certo, sintomo di perversione. Immagini porno non visibili, ma verbalmente altresì verbalmente e certo, possono danneggiare gravemente la dove psicologia e l'intimità di un minore. Ad esempio l'intervista ad una cosiddetta, certo, trans, ma che cazzo, dove si parla delle sue avventure con clienti, oppure l'intervista ad altri famosi porno attori, dove si descrivono approfonditamente immagini e situazioni ad alto contenuto pornografico nella trasmissione della Zanzara. Si violano costantemente i diritti dei minori, sì? Si fa riferimento ad esempio a pene, vagina, posizioni erotiche, squirting, il tutto condito da un linguaggio inadatto, scurrile ed inappropriato per una trasmissione radiofonica. All'interno della trasmissione inoltre si assiste alla mercificazione del corpo della donna, sì, inneggiando allora, con riferimenti espliciti alla prostituzione. La morale della trasmissione è indurre la donna a vendere il proprio corpo, in fondo la strada più semplice a fare carriera, ma questo si chiama perversione, tutta accompagnata da stati sessisti e marxisti. Ma scusami Marco, ma sei la prostituzione Marco, è reato, ma considerato dal codice civile penale. I messaggi di questa trasmissione vanno fermati perché negano la morale pubblica. Fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Cruciani, non mi cambio più le mutande dal 5 di aprile, dall'ultima volta che ho chiavato. Cioè praticamente non c'è più il colore originale, ci sono solamente macchie, chiazze, ti lascio immaginare gli odori. Sai che non è male questa quarantena. Giuseppe, mi manca più Gottardo che andare a puttane sulla Salaria il venerdì sera, ti prego, reintegrate il Gottardone che come lotta lui non lotta nessuno. Parenzo, so Blasco, ti è passato bene il 25 aprile, fra pesce, gelato, vino bianco, e intanto Gottardo sta facendo beneficenza per i poveri e per la gente che sta male, ma vergognati, pezzente. Non mi sono dimenticato di te, prima o poi te becco, De Blasco, one more death. Signor Dave Blasco. Allora adesso torno da Marco, che non so cosa ha fatto prima, una specie di proclama, una specie di invettiva contro questa trasmissione, una denuncia che vuole fare per atti osceni, roba vecchia, ormai superata, roba che abbiamo già superato in carrozza, abbiamo superato ormai di gran carriera. Comunque fra poco lo faccio di nuovo sfogare, se vuoi ci spiegherà anche il senso di questo suo sfogo nei confronti di questa trasmissione, che invece è un grande inno alla libertà. Però vi voglio invece leggere una cosa che è un grande argomento. In realtà non ha scoperto nulla di particolare questo signore, che è un professore dell'Università di Roma, che si è concentrato, si chiama Iannini, è un grande esperto di sesso, e si è concentrato sui piedi, niente di mamma nuovo mia, questa è una mia, trasmissione piedofila, come già sappiamo. sappiamo, no? È una trasmissione che si concentra molto su questa cosa per una tendenza naturale e perversa del conduttore di codesta trasmissione. Chiama molto i piedi femminei. Vedi che termini che uso. I piedi il podologo, femminei. Non si dice piedofila, però. No, si dice, piedofila è la, passi- la passione. Il podologo è quello che va. Il podologo è quello che cura qua, i piedi. Quello, no? È un altro discorso. Da che pus c'è. Podos, mi pare sia in greco, se non ricordo allora, male. Non è un mistero che i piedi sono sostanzialmente il feticcio più frequente nei maschi etero. Su questo non c'è dubbio. Ma no? Tra cosa i vari... c'entra con la crisi, col coronavirus? No, nulla, ma cosa che c'è? Non è che bisogna per forza qua? Parlare del coronavirus ogni secondo. Cioè la gente pensa anche ad altri cazzi, no? Che trasmissione è? Che si sa, telefona la gente, invettive. Che trasmissione è esattamente? Vi partecipi da anni. Sì, ma è raccapricciante. Ogni volta che ci rifletto, io devo farla senza rifletterci sopra. Perché se rifletto a quello che faccio, è una cosa in che si passa di palo in frasca. Gente che inveisce, nazisti, gente che insulta. Che trasmissione è? Aspetta, che cos'è? Aspetta un attimo, senti questa cosa qua. Da un punto di vista biologico, l'odore animalesco dei piedi riporta a uno stato di natura selvatico e quindi ipersessuale. Mamma non mia, bisogna dimenticare mia. Che questa parte del corpo è sporca e quindi eccitante, perché nella nostra testa spesso c'è l'associazione di questi due concetti, cioè sporco ed eccitante. Guarda che è fondamentale questo concetto. Fondamentale, fondamentale. Non bisogna dimenticare che questa parte del corpo, cioè i piedi, è sporca, è di natura sporca. Tu li puoi lavare quanto vuoi, ma comunque sul letto, quando c'è un rapporto, quando uno lo vede, non saranno mai totalmente puliti. C'è sempre uno sporco. Quindi eccitante, perché nella nostra testa spesso c'è l'associazione di questi due concetti. C'è un altro fattore particolarmente importante. I piedi, e anche le mani, ma più i piedi, sono tra le parti meno suscettibili di trucco, parrucco, bisturi, anche se qualcuno magari i piedi se li fa, non credo che ci sia un bisturi, no? Una chirurgia estetica dei piedi. Spesso basta guardare i piedi di una persona, un'attrice, una persona famosa, per capire la sua età biologica. E se è vero come è vero che il maschio è programmato prima di tutto per cercare segnali veri o presunti di giovinezza, così dice lui, ecco spiegato perché i piedi piacciono tanto. Sono degli indicatori oggettivi e difficilmente falsificabili dell'età di una donna. Capito? Tra l'altro, tu pensi che il feticcio sia un'ossessione maniacale, quasi patologica, no? Il feticcio. Ma no, è una sì, in realtà beh, è una passione sì. divertente, stimolante, non è quasi mai è maniacale, patologica. Poi certo, ci sono i casi estremi. Però ricorda questa cosa qua, sporco ed eccitante. L'associazione di questi due concetti è concentrata nei piedi. E allora di nuovo Marco da Bologna, che c'è? Che succede? Io i piedi, io calcola che a mia moglie la prima cosa che gli bacio sono i piedi, perché no, adoro... Perfetto, qua siamo sulla stessa linea. Adoro, fratelli, io dormo, a volte mi sono addormentato col piede qua, quando ci mettiamo sul divano. Davide è contentissimo di sta cosa. Io sono felicissimo. Mi addormento col piede qua, fratelli, è il dito in bocca proprio. Vabbè, Brasile. Signor Brasile, signor Brasiliano. Marco, dai, Marco, allora. All'interno della trasmissione, inoltre, si assiste alla mercificazione del corpo della donna, inentrando con riferimenti espliciti alla prostituzione. La morale della trasmissione è indurre la donna a vendere il proprio corpo. In fondo è la strada più semplice per fare carriera. Ma non è vero. Questo si chiama perversione a casa mia. Tutto sì, accompagnato da messaggi sessisti e maschilisti. Induzione alla prostituzione è reato, sanzionato dal codice civile penale. I messaggi di questa trasmissione vanno fermati perché ledono la morale pubblica. Mettetevi nei panni di un padre di famiglia. Che è vero questo se qua. Vostra figlia facesse la prostituta dopo aver ascoltato questa trasmissione degna di un bordello di provincia, terminiamo questo scempio! Ma cosa terminiamo? Questo qua da dove fermiamo questo scempio? Ma questo gli dà ragione. Ma questo gli dà ragione. Sì, poi. Non è sbagliato. Ma fermiamo dove questo scempio? Ma no, cosa bisognerebbe ragionare? Sei rovinato! Ma cosa? Sei rovinato! Ma che dice questo? Ma cosa dice? Io ti rovino! Ho scritto la stampa, Massimo Giannini! Ma non mi interessa! Ma non mi interessa! Ma tu puoi fare quello che vuoi, ha non mi interessa! Stampa, ma non so chi ha scritto questo! Ma che ha scritto la stampa? La stampa. I principali quotidiani italiani! A Massimo Giannini! I principali quotidiani ma italiani! Chi se ne frega! Ma tu sei matto e quello ti va dietro! C'è uno che ti ha... Perché la stampa è così della sera! Ma non mi interessa! Però, aspetti, calmiamoci un secondo! Lei per chi... Scusi Marco, a lei piace la figa? Io vorrei capire se a lei piace la figa, però, perché un attimo vorrei capire questo. Non me ne fotte un cazzo, io parlo con te. Ti fanno un culo così. Ma hai denunciato l'AGCOM. Ho scritto l'AGCOM. Ma scrivi all'AGCOM. Ti fanno saltare il culo. ma non c'è problema, Marco. È da tempo che hanno scritto alla GICO. Lei alle ultime elezioni, però per chi ha votato lei alle ultime elezioni? Lei? Allora, io sono il mio canale YouTube Bandino Club, c'ha milioni di ascoltatori, milioni. Mio nonno in carriera, il mio canale Antonio da Palermo, Antonio da Palermo, vai. Dimmi, allora, dimmi, dimmi. Bisognerebbe riflettere su quanto ha detto questo ascoltatore. Ma cosa riflettere? Cosa c'è da riflettere? Lì si è andato dietro, era un matto totale. Dai, bisognerebbe, su. Bisognerebbe riflettere su. Allora, mi fate parlare oppure non dimmi, lo so. Dimmi, Antonio, dimmi che vuoi. Allora, il signor Feltri è un signore, perché allora vi spiego, se sono siciliano. Non, io voglio capire una cosa, perché da Napoli a Palermo lo devono prendere come un razzista? Perché ha detto delle cose ovvie. Ma sì, ma ha detto delle cose che possono essere contestate per il termine inferiori, eccetera, sì, ma ha detto delle cose, ha detto delle cose giuste, noi siamo, no, per, giusto, ignoranza, non lo... per ignoranza numero uno, e questa è la prima. Ma non è vero, ignoranza che vuol dire ignoranza? Da che punto di vista ignoranza? Cioè... Mentalità zero totale, ma io, sono siciliano, io sono siciliano. E allora? È la verità quello che ha detto. E vabbè, dai ragione a Feltri, Biagio da Napoli, andiamo avanti, Biagio. Ciao Biagio. Giuseppe, buonasera. Dimmi. Guarda ragazzi, dovete fare sempre questa connessione. Quando guardate i piedi di una donna, innanzitutto sono degli indicatori formidabili dell'età di una persona, questo è sicuro. Guardi i piedi e ti accorgi dell'età, non può sfuggire a questa cosa. Se guardi un piede di qualcuno, è una cosa da cui non si può sfuggire nella maniera più assoluta. Le mani sicuramente, ma anche i piedi, concentriamoci sui piedi. E poi cos'è che ci fa andare al manicomio? Cos'è che ci fa impazzire? L'associazione tra lo sporco e l'eccitante, cioè la capisci ma qual è la roba? Ma quando mai? Sì. Ma quando mai? Ma è una perversione assoluta. A me lo sporco non eccita in alcun modo, ma mi fai no, ma come ma no? Dire, ma come? Scusami se non è così per me, scusami. Una bella doccia, chi c'è, un buon demone, gradevole chi c'è, profumo. Chi c'è, no? Una buona doccia e un gradevole c'è profumo. Demone, però Biagio, prima mi sembra che ci sia il demone, Biagio. Mi sembra, Biagio, dimmi. Buonasera Giuseppe. Niente, dimmi, Giuseppe, dimmi. Volevo dedicare un pensiero, lo hai già fatto tu prima, però ci tenevo a farlo visto che mi avete contattato, insomma, mi avete gentilmente richiamato, mi farebbe piacere farlo. Allora, niente Giuseppe, io da stamattina sono molto molto molto arrabbiato. Io sono uscito a lavorare alle 5 stamattina e ho avuto modo di leggere la notizia sui social di quello che è successo sulle strade già martoriate della provincia, della periferia napoletana di Secondigliano. È successo che stamattina un ragazzo che va a guadagnarsi lo stipendio indossando una divisa e cercando di combattere la criminalità che ci attanaglia tutti i giorni è stato barbaramente ucciso da tre individui che voi prima avete definito provenienti da un campo rom, non so se rom, comunque provenienti da un campo rom, esattamente, io ritengo che definirli criminali sia molto oneroso per loro, per me sono bestie, sono degli animali, perché non si può, quale non sarebbe si può la pena giusta nei confronti di questi qua, quale sarebbe? Ma guarda Giuseppe, ti dirò, io sono un grande fan del governatore della nostra regione, come lo sei anche tu, no? Il governatore De Luca, sì. Ricordi qualche tempo fa il nostro governatore in merito ai ragazzi che volevano festeggiare la festa di laurea, lui così, tu dici esatto. Adesso stamattina due li hanno beccati, uno è scappato, David, credimi. Ma sono dei criminali, città. Ma che c'entra il lanciafiamme? Non può essere che stamattina un ragazzo di 36 anni con una figlia di 6 anni e una bambina di 4 mesi abbia smesso di vivere perché degli animali, perché sono bestie, abbiano deciso di speronare l'auto con la quale ha tentato molto di fermarli. Grave, Davide, tu stai minimizzando, non scherziamo, perché quasi potrebbe trattarsi di mio fratello, di tuo fratello o di suo fratello. No, ma la cosa incredibile è lo speronamento, cioè... fatto da criminali, che devi dire? Certo, no, mi pare David, abbastanza evidente. David, non sono d'accordo con te, perché un criminale spara per difendersi. Esatto, ti affronta. Quello è un criminale magari, vero. Magari sarebbe, se nel destino di questo povero povero ragazzo 36enne c'era scritto che stamane sarebbe dovuto morire sul campo di battaglia, ma sta sicuro che un criminale, che assolutamente io non condivido, io sono un ragazzo che lavora, ti parlo da un camion, quindi figurati, sono padre di tre figli, quindi figurati se io posso abbracciare quella politica là, però almeno un criminale ha, come dire, Giuseppe, aiutami, ha l'onore di una sparatoria, gli animali, allora bisogna agire con i lanciafiamme, andare là, si lanciafiamme, estrapolare i bambini distruggerli, quello è un altro. Tu dici lanciafiamme sui rom. Io no, questo qua non si può dire. Non si può dire perché. Lo so, meno male, ogni tanto anche Cruciani si sveglia. No, però capisco qual è, diciamo, lo stato d'animo di questo signore qua. Lo capisco. Stiamo scherzando, ragazzi. 36 anni, barbaramente ucciso alle 5 del mattino. Ma stiamo scherzando. Ma con quale grazia tu vuoi andare a ragionare con questi individui? Vittorio Feltri, alla quale io ho lasciato un messaggio qualche giorno fa, per quanto mi riguarda quello che ha detto, lascia il tempo che trova, perché non mi sento manco di considerarlo. Pasquale Apicella, sposato con due figli, aveva lavorato a Milano e a Roma, era anche un tatuatore da quello che ho letto, per sventare una rapina in banca. Un poliziotto, hanno tentato di estrapolare. E quello minimizza, Ma scusatemi, ma di chi minimizza muro? Nessuno? Ma scusi, signore, che ma non diciamo stronzate. Quello è un territorio in cui imperversa la camorra. E ora un episodio drammatico, terribile, come quello di oggi, diventa più violento e più grave di tante decine e decine di episodi con protagonista la camorra. Io mi indigno perché il criminale è criminale, indipendentemente dal fatto che venga da un campo rom, indipendentemente dal fatto che venga dal partito fascista, criminale, punto. David, non ridate la vita a quel poliziotto dicendo non si può dire che vengono dal campo rom. Non si può dire che vengono dal campo rom. Parenzo non lo vuole dire, diglielo. Parenzo non lo vuole dire. L'avete detto voi, ma non mi sembra un dettaglio rispetto al fatto che è un criminale. Derubano tutti i giorni la povera gente sugli autobus, sui tram, sulle metropolitane. Ci hanno rotto i coglioni. Sì, ma il problema di quel territorio non è solo il campo rom, amico caro. David, abbiamo già i nostri che ci rompono i coglioni tutti i giorni, uno a lavorare e 10 a guardare. Hanno rotto i coglioni, li devono cacciare, cacciare. Certamente il fatto di oggi è molto grave, perché delle persone che vanno a speronare una macchina, ammazzano una persona, è un fatto di criminalità, certamente uno può dire minore rispetto ad altri, dice Parenzo, però io capisco la rabbia di questo signore che ci ha chiamato, la capisco perfettamente. E non è che la sto vellicando, caro Davide, non la sto accarezzando, come al solito, come il tuo solito. La sto accompagnando, consenso, per prendere voti, per essere sempre quello che difende il popolo. Invece sei soltanto un infame che gioca con gli istinti delle persone. Vergognati. Ciao, per Biagio, ti abbraccio, Biagio. Ciao, Biagio. Allora, in mezzo al casino di Feltri c'è finita pure Annalisa Chirico. Buonasera, ciao Annalisa, ciao a tutti. Eccola qui. Ma ciao, tu ti rendi conto che si è presa della razzista dal signor Luca Telese ieri sera? Ma non ho capito, perché ha fatto più la leghista della Lega. Cioè ormai neanche la Lega sostiene più le follie di Feltri, ragazzi, capito? Allora, tu hai preso sul serio quello che ha detto, la stronzata di Feltri. Feltri ha detto una stronzata, tu hai preso sul serio una stronzata, questo è il tema, vero? Allora, Feltri ha detto quello che pensa e non nessuno di noi deve farsi vincere. E non è razzista, secondo te? Lo diciamo che non è razzista, non è una cosa razzista. Vegeto, l'ho sentito anche oggi, sta benissimo, non è razzista, anzi, insomma, diversi giornalisti meridionali, come anche me, hanno avuto il piacere di collaborare col direttore Feltri. Io sono peraltro meridionale, pugliese, super meridionale, innamorata del direttore. Sud Italia. Quindi in realtà che cosa ho detto ieri che ha provocato? Io ho visto l'ex ministro Grillino, Barbara Lezzi, l'altro del sud Grillino, Corrao, che hanno detto lei la Chirico razzista. Io ho detto perché un'area del paese che è economicamente depressa, dove la gente fa fatica a trovare lavoro, dove fa fatica a portare avanti la famiglia, a pagarsi le vacanze, col passare del tempo perde fiducia nelle istituzioni e diventa moralmente inferiore. E quindi perde non la morale, perché io non parlo della morale altrui, ma perde vigore nel senso del questo fiacca il morale di un popolo. Io parlavo del morale al maschile, non della morale che personale, individuale, mai mi permetterei. Dicevo appunto che la gente perde fiducia, si rassegna e quindi diventa anche meno intraprendente, meno laboriosa. Ma non è così, però. Ha meno speranza di riuscire, perché deve chiedere il piacere. Ma secondo te la parola inferiore, la parola inferiore. Non si può usare o non si può usare? Che sembra uno scandalo. Allora, io Giuseppe penso che si possano usare tutte le parole, perché io sono per la libertà di parola, per la libertà di espressione. Quando la libertà offende, no, però scusami, perché se tu dici. Se qualcuno si sente diffamato va presso la autorità. Ma certo, ma poi chi sono i meridionali? Non esiste una categoria dei meridionali, ma chi è ma che come no? Le associazioni? Ma stiamo scherzando. Ma dai, su, ma io trovo tutto, ma siamo ancora al nord contro il sud, ma io trovo tutto una ora. Il nord contro il sud l'ha fatto Feltri, però. Ma no, la critica è quella che scusami, Feltri è un signore che vive di luoghi comuni. Feltri è il direttore dei luoghi comuni. Gli immigrati portano le malattie, al sud sono tutti fannulloni. Ma sarà libero, non deve essere denunziato per questo. Ma sono stereotipi. Stereotipi. È un signore che vive di stereotipi, ma non sarà l'ultimo, ma vive di stereotipi. È un signore che fonda il suo modo di vivere sugli stereotipi. Ho capito, anche Garibaldi, anche Cavour. Che spesso dà delle opinioni che scompigliano e che scompaginano, per cui noi ne parliamo per una settimana dopo. Ma non è neanche ma che opinione è dire che al sud sono tutti parcheggiatori abusivi? Che opinione ma è? Una stronzata. È una stronzata. A volte negli stereotipi uno coglie anche un filo di verità. Assolutamente. Quindi, un giornalista non dovrebbe lavorare per stereotipi. Feltri costruisce un giornale sugli stereotipi. Allora, però voglio chiedere. Feltri fa opinione. Voglio chiedere un'altra cosa. Un retroscenista, uno che fa cronaca. Uno è un grande editorialista italiano. Ma lasciamolo libero di scrivere. Grande editorialista adesso. Grande editorialista. Noi siamo felici di leggere anche le cose urticanti che dice Feltri. Poi noi ne parliamo il giorno dopo. Ma non sono neanche urticanti. Sono delle cazzate, comunque Davide, quello che può dire un qualunque magari noi giornalisti anche ci annoieremo, perché tra di noi spesso c'è tanto conformismo intellettuale. Va bene, allora questo d'accordo, quindi questo hai ragione, però allora appartiene al circo, a un'altra categoria. Meno male che c'è il circo. Certo, su questo sono d'accordo anch'io. Speriamo che Giuseppe Conte ci permetta di trasferirci tra le regioni, di liberarci quanto prima, perché io vorrei andare nella mia Puglia a fare le belle vacanze in Puglia. Scusami Annalisa, ma non ho capito, ma tu per esempio sei riuscita pure a fare qualche ritocchino al tuo fisico in questo periodo di clausura? Io? Ma che ritocchino? Sto provando a fare workout perché qua sono ingrassata, sono sempre a casa, ferma, seduta, mangio cioccolatini. E sessualmente come te la cavi in questo periodo? Sessualmente malissimo, c'è un periodo in cui non faccio ginnastica, non faccio attività fisica, è un po' cioè drama. Niente, stai a casa da sola, niente, non ricevi nessuno. No, cioè cerco di fare il minimo indispensabile che ciascuno di noi, immagino anche tu Giuseppe, spero un po' di attività diciamo aerobica la farai. Masturbatoria, no? Dici, masturbatoria. Quello che si può fare. Ho capito. Io ho capito che il Premier Conte ha detto che ci possiamo accoppiare solo se abbiamo affetti stabili. Mi sembra che no, nella stessa regione però, se tu conosci qualcuno. Tu sei a Roma, se conosci qualcuno in Umbria per esempio che ti vuoi scopare non ci puoi andare, che uno debba andare se tu sei me... una tazza di amiche che dicevano adesso dobbiamo tirar fuori tutti i fidanzati e fare degli accordi per incontrarci a Ostia Fregene. Io ricordo che ero innamorata di un ragazzo di Fregene che vorrei incontrare. Sai, anche se instabile, no, io trovo tutto un po' ridicolo. Ma dai, gli affetti stabili, uno dovrebbe certificare al carabiniere o al poliziotto, poverino, naturalmente non è colpa sua, che sta andando a trovare una persona che è un affetto stabile. Ma come cazzo si fa? Il Premier Conte dovrebbe veramente fare una riflessione su se stesso, anche sulla sua propria tenuta psicologica, perché forse anche lui è un po' stanco, perché io non ho capito niente di quello che ha detto ieri. Cioè io ho capito che per tre volte ha detto che non possiamo fare i party, cioè lui pensa che gli italiani muoiono dalla voglia di fare la festa, gli italiani vogliono tornare a lavorare, non è che vogliamo fare i party. poi ci ha spiegato che possiamo stare su mezzi pubblici ma non possiamo stare in un negozio di 40 metri quadri, per cui i negozi viene posticipata l'apertura, i bar e ristoranti posticipati, i parrucchieri e estetisti posticipati, ma ci tratta come dei bambini. Noi vogliamo ritornare a vivere. Io non capisco perché a Roma devo fare tre auto, devo fare l'autocertificazione pure per uscire di casa, ma se cammino da sola perché devo giustificarmi? Devo dire se vado a lavorare, posso, se vado in farmacia, posso chiederti una cosa? Spesa. Ma ancora? Posso chiederti una cosa? Allora, la questione delle relazioni stabili, eccetera, degli affetti stabili, però è fondamentale, perché c'è un testosterone in giro che tu manco te le immagini da due mesi. Ma magari, io non lo vedo perché sono chiusa in casa. Lo so, ho capito, ma c'è in giro, lo sento io, perché sento le persone. Sento le persone, c'è moltissimo testosterone in giro. Ma per forza, ma tu non le senti le persone per te, non è che uno può parlare solo di Conte, dei decreti di Conte. Parlo della vita reale. Ma quando vado a fare la spesa, non è che parlo degli assatanati. No, ma parlo della vita reale e c'è gente che ha voglia di trombare. C'è poco da fare, è così. Ma c'è 50 giorni che siamo chiusi, c'è gente che ha voglia di sfogarsi, di trombare con la fidanzata, con una qualsiasi persona, con le prostitute. Lo potrà fare adesso, lo potrà fare se non ha un Io dico, ripeto la domanda. Tu come cazzo hai fatto? Tu che non sei una che ti piace queste cose qua, non è che sei una che si tira indietro di fronte a queste cose. Come cazzo hai fatto in questi 60 giorni? Per esempio, qualche film te lo sei visto o no? Pure film. No, non ho visto film. Non sei una che no, frequenta. Non ho visto film porno, se mi stai chiedendo. No, come ho fatto? Come facciamo tutti noi a casa da sola? Cioè, che dobbiamo a fare? A casa da sola, niente, nemmeno qualche questo amico per telefono, nemmeno qualche telefonata così con qualche amico, no, eccetera. Non niente. Ho fatto telefonate. Niente, ormai sei erotiche. Ormai sono invecchiata anche. Ormai sei invecchiata pure te. Cioè, ma no, ma questo lockdown che ci mette un clima di depressione. Appena, secondo me, quando usciremo, torneremo liberi, ci sarà una grande primavera dei sensi, perché gli italiani evidentemente hanno voglia di fare all'amore. Hai già individuato qualcuno con cui esordire, diciamo. Sì, secondo me sì, so anche con chi diciamo dare sfogo ai miei hai già individuato, hai già, ovviamente, sì, come al solito, sì. old 60. No, ma sono persino un po' innamorata. Oh. E non è neanche vecchio, no, un bel quarantenne. Ma che cazzo è successo? Cioè, ti sono amoroso al cibo. Di questo agli ascoltatori però non frega nulla, secondo me loro importa di Conte. I tuoi piedi già ne abbiamo parlato una volta, vabbè, quello che è, cioè, ma invece tu, Giuseppe, come hai fatto? Perché parliamo solo di me, parliamo anche grande, di me. Ma lui è fidanzato, ma lui vive con la fidanzata. Grande attività masturbatoria, ti posso dire, soprattutto grande attività masturbatoria. Io voglio capire perché sei così fissata sulla cosa, sei così fissata sulla libertà di culto e sulla questione delle chiese. Ma ti rendi conto? Perché sei fissata con le chiese? Perché io penso che il governo ci sta trattando da minorenni e credo che abbiamo il diritto di andare anche in chiesa a pregare nel rispetto del distanziamento con le mascherine. Io ho visto l'altro giorno a Tel Aviv una manifestazione in strada con i manifestanti che protestavano contro il governo, tutti distanziati con la mascherina. Certo. Perché lì rispetto alle regole, però. Roba? Perché lì le rispettano, guarda quante sanzioni, ma quante sanzioni hanno date nel weekend del 25 aprile, anche prima, quante persone sanzionate, bloccate. Persino il ministro dell'interno Lamorgese ha detto, che era per una linea un po' più soft, ha detto sulle autocertificazioni, ha detto qui che il numero degli italiani denunciati è stato inferiore al 4% rispetto a quelli fermati. Se uno non avesse fatto quei controlli, probabilmente sarebbero stati molto di più. Lei sta dicendo una cosa, io sono sempre stato contrario alla questione delle chiese, se però tu cominci a riaprire, delle cose, sembra quasi ridicolo che tu non permetti un'organizzazione da parte di un dal 4 maggio, un'organizzazione da parte di un signore prete, a me non me ne frega un cazzo perché non ci vado, però un signore che può mettere una distanza, tra l'altro in chiesa non vedo mai grandi assembramenti. Come fai a dare l'ostia? Ma gli italiani come fai hanno a dare paura l'ostia? Per la propria salute, mica vanno come degli incoscienti in chiesa. Se io vedo la gente per strada, ragazzi, e questo sarà un tema quando torneremo alla vita sociale, che la gente in strada è prudente, cauta. Ma che? Ti guarda come un nemico la maggior parte dei casi. È strano, anche al supermercato, che ormai è il mio unico luogo di uscita, e le persone hanno paura perché sanno che ci sono stati migliaia di morti in Italia, oltre 22.000, quindi insomma qualcosa che ci tocca tutti da vicino. Io non vado in chiesa, non frequento le chiese, però ho persone a me vicine che soffrono un po', per esempio nei giorni di Pasqua hanno molto sofferto di non poter andare a celebrare la messa, per questa libertà di culto, un diritto costituzionale, ma il governo governo, ma poi Conte, ma chi l'ha votato? Cioè non ho capito, ma noi dobbiamo avere un governo che tocca le nostre libertà fondamentali, non risponde a nessuno, dice che decidono i virologi, perché ormai i virologi sono le nuove divinità intoccabili, se lo dice il virologo bisogna far così, gli italiani vanno liberati, tutti i paesi europei stanno allentando le misure di isolamento sociale, io mi devo ancora giustificare con l'autocertificazione, ma io questa autocertificazione non la voglio fare più. E non la farai fra poco. Per ora ciao. È stata necessaria, ciao. Poi ciao. Non la farai ciao, più. Ciao, ciao. E poi ragazzi, vabbè, comunque parrucchieri e camerieri, io sono con i parrucchieri e camerieri. Parrucchieri, camerieri, baristi, estetisti. Estetisti, sono disperati, ciao. Ragazzi, è gente che non prende un reddito dal primo marzo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, Longoni mi ha detto che quando c'è lui riesco a chiamare. C'è un po' di rabbia, va, però. Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice? Ciao Giulietto, vai e insegna agli angeli come si manda a fare in culo quel coglione di Parenzo. Mi stanno divertendo le telefonate di questa sera, devo essere sincero. Allora ragazzi, c'è un personaggio che è scomparso, credo ieri, la notizia è stata data ieri o sabato, no, ieri, credo ieri, o stamattina, vabbè, è uguale, insomma, in questi giorni. Giulietto Chiesa, che molti di voi conoscono. Questo mi spiace. Certo. Molti di voi conoscono perché ha battagliato in questa trasmissione. E in realtà sì, è stato lo conoscevamo un grande... tutti da tanti anni. Grande giornalista corrispondente dalla Russia. Poi insomma, ha preso delle posizioni complottiste negli anni. Come no, ma lo dico senza ironia che è stato un grande giornalista. Cioè, anche i miei scazzi con lui erano alla fine fatti con grande, grande affetto. Lo dico davvero senza alcuna ironia. Adesso non esageriamo. Adesso non, ma non no, dico. È una persona. No, con affetto, nel senso, la battaglia affetto, di una persona che morto, comunque. Non è che siccome è morto di dire che c'era affetto. Ma una persona, l'affetto non lo frequentavo, quindi non è che posso avere affetto, quello no, non c'era l'affetto affetto. Posso averlo a malapena per te. C'era una contrapposizione anche fuori dalla... c'era una contrapposizione, ma lo rispetto, cioè lo rispetta, nel senso che era un signore che io conoscevo ancora prima della radio, perché quando era uno stimato corrispondente dell'Unità, vabbè, io peraltro lo leggevo e lo seguivo sempre alla stampa pure. Negli ultimi anni secondo me ha un po' derazzato, però insomma. Comunque okay, ragazzi, al di là di questo all'anima non sua stiamo, ma assolutamente non stiamo facendo certo, il necrologio di no, Chiesa, ma lo vogliamo ricordare per le cose che, per cui è noto in questa trasmissione, in questa certo, emissione radiofonica, certo, che sono queste. Assad non ha armi chimiche? Certo, dal 2014 Assad non ha armi chimiche. Il gas sarin, sai che cos'è o no? Di che cosa stai parlando, Giulietto mio? Io sto parlando. Accendiamo un cielo in chiesa. Io sto parlando. Di cosa stai parlando? Una cosa precisissima. Cioè? O tu testa no, di cazzo, sai di confusione chi ha dato le armi ai ribelli? Assad. Stiamo parlando del criminale Assad. E tu sei una stiamo testa per, di cazzo internazionale. Stiamo parlando, brutto, stiamo parlando. Non so che non sei altro. Ma che dici? Cosa stai parlando? Ma una volta facevi il giornalista anziché insultare. Ma che cosa sei? Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Pagato da Assad! Non si può dire testa di cazzo propagandista di merda. Sei un propagandista, sei una penna calunniatore, penna prezzolata. Vabbè, allora spiegami una cosa. Ma perché prezzolare le sue idee? Penna prezzolata. Zitto. Giulietto, dimmi perché, chi ce le ha queste armi chimiche? Da chi sono state sganciate? Non lo so. Allora, io riferisco naturalmente, non sono in grado di dimostrare nulla, ma riferisco. Zitto, come al solito non dimostri un cazzo! il Mossad? Sei un bastardo, cioè, propagandista, cioè niente, che non fai altro che, cioè, non conosci niente, dici, potrebbe essere, potrebbe essere, non ho le prove, non ho le prove, non ho le prove, continua a dire non ho le prove. Però scusami, un'ultima cosa, un'ultima giornalista, no, in ultima niente, io parlo di, no, non hai le prove di niente. Fermi un attimo, Giulietto, scusami, Giulietto, voglio capire una cosa, voglio, tu hai detto non ho prove, non ho prove di quello che dico, che io penso, che prove hai, che giornalista sei, un giornalista con le pigne nella testa, pigne nella testa, sai, sei una merda, pigne nella testa, ciao Giulietto, ti chiamerò in giudizio perché hai detto che io sono pagato da Assad, ciao Giulietto, ti chiamerò in giudizio per questo, hai capito? Ciao, io rispondo, ciao Giulietto, prezzolato, prezzolato, prezzolato, prezzolato. Che battaglia che fu, ragazzi, che battaglia, incredibile, epica. Devo riascoltare una le cose che diceva, pazzesco, epica. Pazzesco quello che diceva, una, infatti, una volta era un grande giornalista. Vabbè, se non stiamo, volta, non torniamo su queste cose, una battaglia, no, mi spiace, epica, epica. Certo, allora io direi di andare a Giorgio, Giorgio da Fermo, Giorgio da Fermo, però era un po' che io non sapevo, ma era malato, poveretto. Pronto? Era malato. Ah, il demone, Giulietto. Fermo, il demone, fermo, fermo, fermo. Giorgio, arrivo subito, c'è il demone già da un po' di ciao tempo. Ciao ragazzi, ciao Giorgio. Demone, demone. Oh mamma mia, mancava solo questo. Oh, Parenzo, ascolta, tu a volte hai ragione su alcune cose, ma sei proprio una persona di merda, ok? Mm. Proprio umanamente sei viscido come pochi, hai capito? Il demone. E te lo dovevo dire. Comunque, sì. Cruciani, vabbè, ascolta, anche Parenzo. Cruciani è buono invece, fare... Cruciani è buono invece. Cruciani però è un pochino più alla mano. Cioè un pochino, sì, più alla mano, secondo me, un miliardario. Secondo me ha un po' più di dignità, ok? Secondo me ha un po' più di dignità, tratta un po' meglio la gente. Ma non paga, capito, neanche i suoi collaboratori a casa, figurati, vabbè, una cosa vergognosa. Ascoltate, ragazzi, vabbè, dai. Tutto vabbè. Ma sei veramente un, ma sei un mentitore di professione. Passo io per essere incredibile. No, guarda, tu tratti male, tu tratti male la gente che non ti dice gli niente. Ascoltatori. Comunque, alcuni ascoltatori persone, tratto male. Gli ascoltatori, sì, sono ma persone, alcuni miserabili, capito, che chiamano e insultano tratto male. Quelli, certo, vai, demone, li scrivono, vai, demone, non li tratto male. Ragazzi, ragazzi, ho bisogno di una perizia informatica forense gratuita che mi aiutate ad avere voi, perché c'è diversi siti che vendono i miei libri e forse mi hanno truffato anche quelli che hanno pubblicato all'epoca i miei libri. No, fermi, so, tutti, però, un attimo, scusa, che libri ha pubblicato questo signore? Pubblicato, scusa, dei libri. Sono libri, sono, allora, il più importante si chiama Le mie pagine su questioni d'occulto, che è un libro, un trattato esoterico sulla scienza occulta. Ma che trattato esoterico? Fermi un momento. No, una cosa importante, ce l'hanno anche al Pentagono. Mi hanno portato là anche per il mio blog e i miei libri, ma hai capito? Ma non credo. Fatemi capire, non so solo perché base, sto, dai, perdendo di vista. Aspetta. Forse è andato via il segnale. Lei dice, ti sei caro perso, demone, ti scimmia, sei... persona, esatto, forse ho perso qualche elemento. Persona già superposta. Guarda che io ho un quoziente intellettivo di 122, parenzo. Ma no, ma nessuno mette in dubbio questo. Io dico semplicemente, lei comunque sottoposto, come dico, a misure anche psichiche di un certo tipo, dice, ma questo non sarebbe nulla di male, dice che ha scritto dei libri, no uno, vabbè, sì, dei quello libri. Può succedere, ha scritto, sì, ho scritto ma dei libri. Ma questo può accadere. Sì, questo dei libri. La passaggio, cosa che mi risulta un po' strana, libri, va bene, magari anche lei ha scritto, anche Fusaro ha scritto, tutti, dei libri, non mi stupisce, non mi stupisce che anche lei li abbia scritti, li ha scritti Fusaro, figuriamoci lei, li ho scritti anch'io, quindi la cosa che un po' mi stupisce è che questi libri sarebbero nelle mani del Pentagono, ecco, questo è l'elemento che secondo BDF, me capito? Ah, e poi tra l'altro mi hanno detto ha mandati al Pentagono, sì, via email, certo, e poi certo, comunque mi hanno detto che questi libri hanno venduto tanto perché i servizi segreti li al usano Pentagono, per metterci dentro i messaggi, no, la usano, detto, sì, che ecco, lei capisce libri, che capito, a me così hanno detto libri. Ma chi te l'ha detto? Mi hanno detto che ho venduto 8.700.000 copie, ho fatto 120 euro. Ma cioè, se non mi date, pare, una mano legalmente, questo ragazzi, mi pare, però, serie, francamente, posso dirti, no, io posso credo dirti che la caro storia demone, fa acqua da tutte le parti, caro. Posso la dirti, caro demone, che va bene che lei ha scritto libro, dei libri, sì, accettiamo, accettiamo anche questo, perché financo, vabbè, questo, allora, il allora, demone, però, scimmia, allora, scritto. Allora, che però diciamo i suoi che libri, le forze dell'ordine ti prendono in giro al telefono. Prendono in, ecco, giro, no, me, diciamo, al telefono. Che, okay, accettiamo che lei ha scritto dei libri. Accettiamolo. Io penso che Claudio, vabbè, Magri si scriva dei libri. Ma normale, accettiamo questo, che lei ha scritto dei libri. Va bene, ma può averli scritti. Ma non sono male i miei libri, non sono, no, male. No, ma per carità, una persona sottoposta da cure psichiatriche ha scritto, beh, dei libri. Che c'entra, benissimo, questo non c'entra evviva, nulla. No, evviva, evviva, evviva, evviva. il passaggio che, come dire, rende un po' claudicante il suo racconto, la storia, diciamo, è che questi libri, la storia, sì, che questi libri poi sono stati presi dal Pentagono. Questo secondo me e successivamente che hanno venduto, che hanno venduto 8 milioni di copie, tra l'altro, cioè. Esatto. Beh, io non ho le prove, però mi serve una perizia legale. Non ho le prove, come Giulietto Chiesa diceva, io non ho le prove, legale. Mi serve una perizia informatica legale, mi dovete aiutare. Ma non possiamo fare tenerla. Nulla noi, non possiamo. No, serve una perizia psichica, non informatica. Ma gli avvocati di Confindustria sono impegnati in altre cose. Uno deve usare gli avvocati di Confindustria. Io alla fine, diciamo, non sono pagato da voi, però sono dei vostri nella radio, no? Cioè, parlo ogni mese, faccio un intervento. Sei tra i nostri, diciamo, freaks. Sei uno dei nostri figli di puttana. Sei uno dei nostri figli di puttana. Sicuramente questo. Sei uno dei nostri, come diceva Borghezio di Gheddafi, lui è un figlio di puttana, ma che è il nostro figlio di puttana. A proposito, che fine ha fatto comunque una cosa, Salvini non credo che saprebbe fare di meglio di Conte al governo, perché le risorse sono quelle che sono comunque. Sei d'accordo con Paretto? Questa è una valutazione lucida. Questa è una valutazione lucida. Chiamato più che altro. Senti, e comunque ragazzi, la situazione droga com'è? La situazione droga, oggi ho visto un servizio in cui pare, sai, che chi è un appassionato del demone scimmia? Chi il è? Giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labbate è un appassionato sempre, di demone, perché è vero, ma è vero. Gli ho scritto, gli ho mandato un'email dal suo sito, ma non mi ha risposto. Ma perché snob? Credo. Senti, però demone scusami, voglio capire una cosa, demone, la situazione droga qual è in giro, com'è? Tu che insomma batti il territorio. Oggi ho preso un grammetto e mezzo buona, ci stava, però mezzo mi è venuto cucinato male. Ma però, amico mio, no. Ma comunque, perché? ascolta un attimo. Praticamente c'era il Pentagono, questo sto libro. C'era il Pentagono, sto libro. Perché al Pentagono, se non lo sapesse, non è che trattano soldi. Ma scusa, mi chiedono militare. I titoli del libro. Cristiano, grande autore televisivo, che stanno mi chiede i titoli dei libri. Ma pure titoli. Ti ci metti il carico da 90 anche il tu. Il mio primo libro. No, mi ha scritto Cristiano. Gli chiedi i titoli dei libri, David, ti prego. Vai. Certo, il mio primo libro si chiama Il mio caos inverso. Sì, no, ma andiamo al libro principale. Inverso, andiamo al libro principale. Il libro clou è di 32 pagine e si chiama Le mie pagine su questioni d'occulto. Quello, cioè anche che le mie è finito al Pentagono. Quello che è finito al Pentagono. Pentagono insieme al mio blog. Okay. Perché il Pentagono, all'area 51 e in altre basi segrete, tratta roba di paranormale e di occulto, compresi anche di là. E dunque voleva acquisire qualche informazione da, diciamo, da questo tuo libercolo. Sì, ma guarda che io prima di essere rapito. Prima di essere rapito dell'impero americano. Prima di ciò essere rapito il declino dell'impero americano. No, ma guarda, allora a me mi ha rapito Bossetti, quegli servizi mi hanno semmai prelevato. Però magari sono Bossetti. Falsi ricordi. Ah, già, magari sono falsi ricordi. Vabbè, okay. Ciao demone, ciao, ti ciao, abbraccio. Ragazzi, ciao, ciao, ciao. Gheddafi era un grande figlio di puttana, però era il nostro figlio di puttana. Giorgio da Fermo, avanti tutta, Giorgio, dimmi. Ciao, buonasera. Dimmi. Io volevo sapere una cosa, avevi dato una notizia? Sì. Che bisognava dimostrare se si andava a trovare la fidanzata, di essere fidanzati minimo un mese e mezzo. Ma guarda, no, calma. Allora, io non ho notizie false, no, ma io non ho detto questo. Non ha capito niente, no. Non ha capito niente, allora, ma non mi stupisce. Siccome il governo sostiene oggi, dopo i casini che sono successi ieri, oggi è tornato sopra la vicenda di chi possiamo incontrare, eccetera, all'interno della stessa regione, dicendo che si potranno incontrare anche i fidanzati e gli affetti stabili, però tu capisci che dentro la frase, dentro l'accezione affetti stabili ci può stare di tutto, ci può stare oggettivamente di tutto. Cosa è un affetto stabile, cosa non è stabile, poi lo io parlo della fidanzata, andiamo al sodo, dove cazzo è la tua fidanzata? No, io non c'ho la fidanzata, però ho sentito dire da te che bisognava, se si vengono fermati, bisogna dimostrare che minimo un mese e mezzo. Ma non ho detto un mese e mezzo così a caso, perché ho detto ti ferma la polizia e tu puoi dire sto andando dalla solo fidanzata. Confusione. No, ma non è solo confusione, ma sei se uno... un agente del caos. Ma io sei caos, lo fa il governo il caos. Sei. Lo fa il governo il caos, no io. Guarda, al nostro amico ascoltatore dico, se lui ha un affetto con cui vuole stare nella stessa regione, ci può andare e la può incontrare senza nessun problema. Ma dipende, se ci sta da un mese che è stabile? Se ci state un mese è stabile? Ma no, nessun, non c'è se nessun decreto che dice un mese o due, Giorgio, mesi. Tu stai con anche qualcuno due o no? Giorni. No, no, io siccome tu hai detto se ci state un mese. Ma stai con qualcuno tu o no? No, io sono sposato. E allora che cazzo vuoi? Ciao, no, cioè, ma siccome vuoi andare a Mignotte, vuoi andare a Mignotte, che vuoi fare? No. E che ne so io? Siccome, cioè, siccome è stato detto un mese e mezzo. Ma un mese e mezzo, ma lo so, ma l'ho detto io così per fare un esempio. Perché tu inventi le notizie. Sono due mesi che siamo a casa. Ma non hai capito ancora. Ah, cioè, la gente ha capito finalmente che tu inventi le notizie. Sei un produttore di fake ciao, news. Ciao. Maestro Bini, non è tutto questo. Perché? Perché tutto questo? Questo il titolo è perché tutto questo? Solo questo. Ma è una cosa oscena. Perché? Assoluto. Riesce a fare con una strofa. Ma è pazzo? Ma quella strofa è una parola. Che dice? Dice. Non è possibile. Tutto questo non è possibile. Ma non è possibile, certo, non è possibile una canzone simile, non è una canzone. Tutto ciò deve avere fine. Tutto questo deve. Secondo me lui. Tutto ciò. Finire. Deve avere fine. Cioè lui praticamente legge i titoli sui giornali e da quello inventa. Un non so, uno legge la cosa. E allora Draghi ha fatto il quantitative easing. Perché? Finito. Perché? Perché? Tutto questo. È agghiacciante. Davide no? Da Roma, Davide, io lo vorrei ogni sera, Bini qua. Davanti a me, davanti a me con la chitarra ogni sera, ti giuro, ogni qua. Stasera. Ma non canta, cos'è quella roba lì? Cos'è? Tu? No, ma è, sì, come dice la corte, instant song sono instant song, sono come, no, come l'instant book. Ho capito, uno l'instant legge song. Una notizia sulla è arrivato il decreto. Il decreto sì, non sì. È possibile leggerlo così. Finito, tutto così. Ma che cazzo e poi le ripeto. Mica canzone. Ma è un genio. Instant song, bellissimo, come l'instant book, è vero, certo. Perché tutto questo. Ah, perché faccio anch'io una canzone così, la apro la pubblica, ad esempio, al Corriere. Tutto questo insiste. Uno apre il Corriere, insiste, in due parole dice. Perché? Perché? Perché? Uno legge la notizia. Perché? In Lombardia 1000 ricoveri in meno. La Lombardia! Finalmente a 1000 ricoveri in meno! Evviva! Ma che cazzo è? Cioè, mica la canzone sarà, no? La maturità non sarà più un esame normale. Perché? Perché? Perché c'è il Covid. Ma che, non è canzone però, non è una musica. Ma perché no? Quello apre il Corriere.it, vede una cosa così, un titolo e come prende una cazzo di chitarra e fa finta. Fammi sentire, allora, che, fammi sentire che mi fa quasi venire questa cosa qua. Mi fa... Non è possibile che accada tutto questo. Non è possibile. Ma che vuol dire? Che accade tutto questo. Maestro, io lo vorrei avere qui davanti a me ogni sera, ogni santissima giorno che viene sulla faccia della terra a cantarmi, a prendere spunto da un. Si deve fermare. Tutto ciò si deve fermare. Senti, come sono intonato. Ma certo che si deve fermare. Allora, meglio, giustamente, Poli dice meglio questo de Conte. Davide da Roma. Pronto? Tutto questo. Davide, dimmi, dai. Pronto, ciao Giuseppe, senti. Ho il telefono, volevo parlare cose serie, no? Poi mentre attendevo. No, no, mentre attendevo insomma che mi richiamasse, stavo fuori in giardino seduto, ho visto la vicina che è uscita, 69-70 anni. 69-70 anni. Il mutandone quello color carne, lo conosci? mutandone color carne, la vecchia mutanda, quella, la vecchia mutanda quella là, no? No, quella antica, diciamo, no? Dico, ma lasciamo perdere Conte, tutte le varie cose, se vuoi se vuoi. Ma ti sei arrapato? No, sei... che so, ma volevo chiedere, dico, parliamo di cose più nostre. Cioè, più ti sei arrapato? Che so, malato. Cioè, ti sei arrapato con la, sì. Ti sei arrapato con la, sei riuscito ad arraparti in questa situazione con la vicina 69enne, 70enne che è uscita fuori nel fuori, giardino col mutandone color, color carne, sai, mutandone quello, guarda, quello bello grosso, pare, un saluto a Parenzo, molto pur, simpatico, si chiama pure spesso, Davide. No? Pure spesso il mutandone. Molto, molto spesso, no, non solo. E sei riuscito ad arraparti, cioè, ti è venuta voglia, quasi voglia di farti una chiavatina con la vicina? No. Ma io stavo pure le scale piegate, dico, mo salgo, ma che fanno? Ma restano, che ne so, boh, volevo sapere. No, capito? Cioè, voglio dire, come chiede a sti amici se, se sarà normale? Forse no, è normale, è normalissima, è normalissimo, è no, non ti preoccupare, è normalissimo, è normalissimo, è normale, non ti preoccupare. Ciao Davide, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Valentino dalla provincia di Roma, dai, Valentino. Tutte le norme, le regole, gli orari. Valentino, che succede? Sì, pronto. Buonasera, intanto vi ringrazio per aver darmi la possibilità di testimoniare un fatto di cronaca veramente doloroso al quale sentiamo il dolore, ci appoggiamo. Calma, calma, di cosa stai parlando? Che, di, perché hai chiamato? Qual è il motivo di questa non telefonata così formale? Io ho chiamato. Hai chiamato perché sei un coglione, questo è il punto. Ciao Valentino. Beh, poverino. Dai, su due ore per dire una cosa. Ma non si possono però trattare così gli ascoltatori che chiamano. Ha parlato lui, ha parlato. Maleducazione. È normale. È normalissimo. Andiamo con noi però... In collegamento dalla sua casa di Roma, Lori del Santo, buonasera, buonasera. Ciao, ciao, in realtà sono a Milano, scusa. Ah, sei a Milano, non sapevo fossi a Milano. Io abito a Milano lucidità da 20, 26 lucidità. Anni. Non so perché mi era rimasta in testa questa cosa di Roma e che vuoi fare? Vabbè, abita a Milano, dunque nel pieno del ancora nel potresti nel andare pieno, a trovarla. No, perché non vai a trovarla, scusa? No, potresti perché... dire che è un affetto che è un affetto di cui hai bisogno, vai lì e vai a trovarla, scusa. Ma uno potrei anche dirlo, vedi la buffonata di questa cosa qua, dice la l'affetto stabile. Sei un congiunto? No, non sono un congiunto. Potremmo congiungerci. Potremmo congiungerci anche carnalmente, se vuoi, anche carnalmente. In tutti i sensi. Senti, come stai passando dal punto di vista innanzitutto, vorresti scappare da casa, vorresti uscire come tante persone ci stanno scrivendo, ci stanno mandando dei messaggi, mail, eccetera, basta, sì. Non se ne può più, vorresti scappare perché no, veramente, non se ne guarda, io sono una solitaria a mostrare a casa, non uscirei mai, però ti giuro che dopo quasi non so quanto tempo sia, ma veramente lasciateci sì, liberi allo stato brado, cioè, mollateci, cioè, perché meglio... sennò va a finire che dovranno costruire dei nuovi ospedali per malattie mentali, secondo me. Sì, ma alla fine perché può essere veramente questo. Si impazzisce, cioè si diventa tipo randagi. Senti, ma non ho capito, dunque tu vorresti anche rischiare un po', diciamo, un pizzico di rischio lo prenderesti, diciamo, no? Assolutamente sì, perché non si capisce, perché se tutti sono stati a casa, come fanno ad esserci nuovi contagi? Cioè voglio dire, sembra una follia. Vabbè, questo adesso lasciamo... Non c'è nessuno che gira. No, ho capito, però insomma ancora evidentemente... Vuol dire che si auto... sparge. Dunque, tu quindi, insomma, a un certo punto siamo mesi che siamo qua dentro, adesso è ora di liberare gli argini e vuol dire che chi prenderà le precauzioni sopravviverà, gli altri problemi loro. Cioè, nel ma non è sbagliata questa cosa qua, cioè alla fine non uno è che soffrire tutti mancava. Sta bene. No, ma questo però è un punto fondamentale. Tu adesso la prenderai in giro, signor Lori del Santo, per quello che ha detto. Però no, ha detto una cosa. Mi sembra una adesso cosa che usciamo, non stare in cielo né in terra, usciamo con le precauzioni. Chi non prende le precauzioni è un problema suo. È vero, cioè, che può contagiare, dire, gli altri. È vero che può contagiare gli altri. Non è esattamente vero, perché se uno prende le precauzioni non ti avvicina un altro. Cioè, scusa, vedi uno che non ha. David, a un certo punto bisogna ma decidere. Può essere un problema anche per il servizio sanitario nazionale. E cioè, ti bacia all'improvviso, eh? Dai, le persone irresponsabili sono un problema, oltre che per gli altri, ti per sé, improvvisamente. Per il sistema sanitario, no, la cosa nazionale. Le persone responsabili saranno loro che avranno dei problemi. Ci sono tante persone responsabili, no, anche noi. Ed è giusto che riescano a sopravvivere, perché fra un paio di mesi, continuando così, veramente si entrerà in guerra. Ma tu dei soldi se uno passa col rosso non fa un danno solo a se stesso facendosi male, ma può fare un danno anche a un altro. Sei il capo di Brusaferro. Sei il capo di Brusaferro. Non è che la soluzione sia uccidere l'economia, cioè se lo Stato fallisce, no, non paga bene, più i carabinieri, la polizia, gli ospedali e le pensioni, voglio vedere cosa succede. Ci sarà altro che ci sarà un'ecatombe di morti, perché se nessuno può dice mangiare, la signora Lori del Santo, dall'alto, diciamo, della sua, come dire, no, della sua semplicità dice delle cose ovvie, normali, a portata di tutti. Non è, cioè, lo Stato quanto può reggere se non c'è un'economia che lo sostiene? Dopodiché, se non pagano più neanche i medici che vanno all'ospedale, che lavorano lì, o le forniture ospedaliere, a questo punto fallisce tutto. Senti, cara Lori, tu in quanti metri quadrati vivi a Milano? Tanto per fare una chiarezza su questa cosa. Ti dirò, la casa è abbastanza grande, infatti anche col mio compagno non ci vediamo quasi mai. E quanto è grande? Quanto è? 300 metri quadrati? 200? 300? Quanto è? No, quasi 300. Quasi 300 metri quadri. Ah. Caspita. Cioè tu praticamente quanti potresti... bagni ci sono? Ma che te ne frega dei bagni? 5. A te? No, così, mi interessa. 5 bagni. 5, perché il bagno è determinante. Guarda che avere più bagni è anche utile. Allora, perché... noi abbiamo bagni separati. Camere separate. Se c'è un litigio particolare... ogni tanto che accade, soprattutto in questo periodo, camere separate solo in casi eccezionali, tipo in questo periodo per la prima volta 2 sere ha dormito da solo. Ma scusa, non ho capito, la vita sessuale in questo periodo com'è? Cioè, secondo te ma in realtà è tutto normale, solo che... No, ma stare dentro casa, in una casa grande... Sì, cucina, no, tu sei più bravo, no, tu fai schifo, hai messo troppo... Cioè, si litiga per questioni talmente stupide che veramente, non so, l'intelligenza si disperde, io non vedo più tracce di umanità. No, ma ho capito, ma in questo periodo, in questi quasi ormai 60 giorni, 50, quanti sono, eccetera, c'è stato, come dire, dal punto di vista sessuale un miglioramento, oppure la cosa, la vicinanza rende difficile la questione? Perché no, miglioramento no, peggioramento in teoria neanche, se ci si ama, non però c'è... ripeto, il fatto di stare insieme, per esempio, per esempio io ho meno paura, lui ha paura di uscire, lui dal tipo fine febbraio non ma lui, esce ma, di casa, ma ha 30 anni, c'ha 30 anni, esatto, c'ha. Io sono andata a fare la spesa, che non ho mai fatto prima perché avevo una persona che portava le cose, adesso non c'è, e quindi io però per non morire di fame sono uscita. Lui ha fatto arrivare il collirio con delivery. Il collirio? La farmacia comunque, sì, il collirio aveva un po' di marelli perché aveva paura di andare in farmacia, ma che roba è? Sì, ma la farmacia è di fronte alla via. Io mi sono impuntata e mi fa, vai in farmacia a prendermi il collirio. No, dico, ma scusa, la farmacia è, che ne so, 30 metri. Lui fa, no, dacci tu, ha ordinato sui online il collirio. Il collirio, ma la roba... Costava di più il delivery che il collirio. Sono le cose che piacciono a Parenzo alla fine. Non quelle... No, io vado a fare le spese tutti i giorni, ma che scherzi. Non è mai uscito. Ma io vado tutti i giorni a fare la spesa. Ho comprato una PlayStation online... E siccome quella mi sono rifiutata di farla, di andarla a prendere in un altro palazzo dove c'è il portiere, qui non c'è, quindi è tipo a 30 metri anche quello, e ho detto no, io quella non la vado per quella, è uscito una volta a prendere la PlayStation, cioè siamo di questi livelli. Scusami, adesso sto facendo morire di fame, nel senso che è finita l'acqua. Gli ho detto, vai al supermercato, che anche quello a 30 metri. Gli ho detto che proprio. E ha paura di andare al supermercato? Allora, lui beve solo acqua naturale. Mamma e oggi sta bevendo acqua gasata, che è la mia bottiglia, perché. Cioè, quindi ha finito l'acqua, sta bevendo. Senti, acqua gasata. Senti, come fai con la chirurgia in questo. No, chirurgia no, ma come fai con la pulizia, cioè pedicure, queste cose qua? Niente, io ho la ricrescita. Infatti sei pelosissima. Se qualcuno mi chiede se voglio fare video in diretta, dico no. No. Mi hanno proposto, puoi farla col cappello? Io ho detto no, non voglio farmi vedere. Cioè, anche nelle parti intime, anche nelle parti intime non sei depilata? No, ma quello basta un rasoio, che ci vuole? No, è che rasoio, cioè, tipo depilazione rasoio. Non lo so, magari sei abituata a fartelo fare da altri. A parte che trovo più sexy avere che non. Ma avere il pelo, giusto, giusto. Io anch'io sono piuttosto. Ma perché si finisce sempre? È molto più sexy avere il pelo. Ma il pelo, sì, ma ragazzi, è una donna, c'è. Cioè, se no sei un infante. Io non so questa moda, però vabbè. No, ma non è che moda, ormai siamo per tornare indietro. No, soprattutto l'uomo sembra un pollo spennato. Dicono che sembri, le dimensioni aumenti, no? Senza, sì, del cazzo. Però sì, del pene, io vedo una cosa spennata. Però vabbè. Giusto, giusto. Ciao, ciao, amica mia. Ciao, presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. Una prugnetta, mi faccio crociare. Ieri si sono messi a fare i scherzi col telefono, no? A Tiziana Ledicolante e all'altro sindaco. 2-0 per il Sud. Cruciani e Parenzo, siete presa nel culo, perché Ledicolante Tiziana ha reagito benissimo, proprio da signora, perché pensava che fosse vero il coglione rincoglionito di Feltri. E poi l'altro sindaco pure, ve la siete presa nel culo, la risatina tua, Cruciani, ti è andata de traverso, te la sei ringoiata. So proprio contento, 2-0 per il Sud, avete fatto una figura di merda a fare lo scherzo. Pensavate di far incazzare Ledicolante, invece no, accarezzare il culo di Feltri sempre, Cruciani. Allora, oggi circolava, cari amici, circolava che cosa? Circolava sull'internet una follia targata Pam Morrigan. Voi direte, chi cazzo è? Un signor nessuno che vaga per l'internet, e in realtà ha un nome e cognome che magari domani vi diciamo. E una signora con dietro una bandiera Notav, ma è anche Novax, cioè contro i vaccini, ed è anche, pare, terrapiattista, una signora che negava la realtà dei morti di Bergamo. Cioè diceva, poi è stato, pare, rimosso questo video, forse lo si trova comunque, andate a vederlo se avete il gusto dell'orrido, io l'ho visto naturalmente avendo il gusto dell'orrido. Questa Pam Morrigan sostiene che hanno creato terrorismo psicologico, pare che il comune di Bergamo la voglia denunciare, non per questa frase, ma altre riguardo alle bare. Sentite. Hanno fatto un terrorismo, perché loro, per far stare in piedi questo teatrino, avevano bisogno di creare un terrorismo psicologico. Sì, hanno fatto vedere le 340 bare di Lampedusa e le hanno chiamate Bergamo. Hanno fatto vedere delle immagini della terapia intensiva di Bergamo, quando invece è saltato fuori che era la terapia intensiva di New York. Cioè, hanno accatastato davvero le bare, perché questo te lo posso confermare, Tommy, e l'hanno detto anche nei media. Hanno detto che erano bare accatastate. Quando avete visto le 20-30 bare fuori dal cimitero di Bergamo, sì, c'erano, ma erano bare che stavano aspettando di essere portate via da 10 passagiorni. E poi un'altra cosa, abbiamo dovuto chiamare i camion militari. Questo non ve lo dicono perché si vergognano di quello che hanno fatto, ok? Hanno dovuto chiamare camion militari perché le bare puzzavano e non potevamo trasportarla nei nostri carri funebri. Cioè, stiamo scherzando? L'oltraggio alla morte? Nessuno dei miei colleghi ha avuto una mancanza di bare in questi mesi. Quindi vuol dire che forse i numeri non sono proprio quelli che ci racconta. O perlomeno sono i numeri che negli anni passati hanno sempre fatto la media. Ricordatevi che Bergamo e Brescia sono state le capofila per le vaccinazioni di massa. Noi abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo fatto chilometri di code per andare a prendersi il bigliettino per prenotare il vaccino. Ve lo sbattevano sui telegiornali perché dovevate emulare Bergamo. Ma stiamo scherzando? inutile dirvi che trattasi di follie, il fatto che le bare in realtà non erano le bare di Lampedusa, non di Bergamo, il terrorismo psicologico creato da qualcuno ad arte, questa è una tesi, diciamo, classica ormai delle ultime settimane. Follia. Poi i vaccini che avrebbero addirittura indebolito le persone nella provincia di Bergamo e Brescia, e i camion militari, questa tra l'altro deve essere anche un'addetta alle pompe funebri, di un'azienda di pompe funebri, da quello che mi risulta. Comunque ne riparleremo. Samuele, vabbè, da Firenze, di anche tu che è una follia. Ma ho già detto che è una follia, dillo. Ma l'ho detto, ma che è una follia. Miseria, avallare qualunque ma chi cosa. Sta ma è un'opinione, ma che opinione? Adesso fra poco ti chiamo come si chiama? La Clementi, la mitica, quella dell'INPS. Chi è quella? Samuele da Firenze, vai. Ciao ragazzi, volevo rispondere un attimino alla signora che prima difendeva a spada tratta lo Stato. Non ho capito, scusa. Volevo rispondere alla signora che ha chiamato prima, che difendeva a spada tratta l'operato dello Stato finora. Vabbè, insomma, allora, del governo, sì, allora? Sì, del governo. Io premetto che non sono uno di quelli che, diciamo, non ha rispettato le regole, anzi. Allora? Però volevo dire una cosa. Ha capito la signora che siamo stati il primo paese a chiudere e saremo forse l'ultimo a riaprire? No, ma non c'è dubbio, ma guarda quello che avviene in Germania. Io vedevo delle foto incredibili della Germania, no, e anche di altri paesi. Gente libera, non imprigionata. Ragazzi, mi fate parlare come l'ingegner Negri. Allora, no, ma per dire, io sono il più rispettoso, ma la realtà è questa, non è che mi metto se a fare il matto. Se tu pensi che non ci sia pericolo, esci. Io non ho detto questo, io ho detto perché in Germania vanno nei parchi, vedo le immagini di Berlino pazzesche. Dai, su, perché, Samuele, dimmi. Intanto perché hanno avuto un impatto inferiore perché? Al nostro, primo. Perché sicuramente devono più sale che sta a governare in maniera molto molto migliore rispetto a quella che ci abbiamo noi, gli improvvisati che ci abbiamo noi. Samuele, ciao. Steven da Monza, dai. Steven Ogongo. Dimmi Steven. Ma ascolta un attimo, la prima cosa che ti volevo dire, ma come mi commenti Vittorione Sgarbi dopo venerdì, dopo l'intervento avuto alla Camera dei Deputati? E l'abbiamo già mandato, mi sembra, venerdì, l'intervento alla Camera dei Deputati. Che ti devo dire? Ma su che? Su che cosa? Non ho capito, Steven. Su che? Su numeri. Ma è sempre la stessa cosa, dice Sgarbi. Alla fine può darsi pure che alla fine di tutto il ragionamento qualche no, non dico il 100%, ma magari un po' di ragione potrebbe avercela pure lui. Comunque, Steven, dimmi, che c'è? E invece un'altra cosa, ma voi sareste favorevoli al vaccino, sì o no? Perché ma questo io... non è, ma che cos'è sti interrogatorio? Ma che roba è? No, ciao, ma rotti i coglioni. Ciao. Vaffanculo. Links rechts geradeaus, du kommst hier nicht mehr raus. Allora, prima di chiamare la Clementi, vogliamo sentire qualche cosa che la mitologica estetista, perché poi gli estetisti sono quelli che non potranno riaprire fino al 1° giugno. Mettiamo qualche audio, va. Qualche audio della signora Clementi. No, ma anche... Te la ricordi quella dell'INPS? Quella mitologica, ma l'abbiamo, per carità, l'INPS. Ma per carità. A me, di voi che siete dietro questo schermo e mi dite: ah, però ti pigli il coronavirus, sti cazzi, muoio con dignità, muoio senza morire di fame, muoio che a me il governo non mi ha tutelata da gennaio, che io dicevo a tutti: mettete le mascherine. Io adesso, perché voi mi avete costretto di rimanere a casa, vi denuncio, vi querelo, perché non mi avete dato neanche un centesimo delle tue scuse, non me ne faccio un cazzo. Me le pago io le multe, io vi sfido a voi, io vi sfido, perché c'ho le palle per potervi sfidare, c'ho tutte le carte e regole per potervi sfidare. Tu a me fino a giugno, 3 mesi, a morire di fame a casa, non mi ci lasci dopo tutti gli slogan che hai fatto. Ti devi assumere le tue responsabilità. E se no, tu a tutti noi partita IVA, ristoratori, ci devi dare subito nel conto corrente 10.000 euro per stare a casa. 10.000 euro! Non è sbagliato, vai, ancora. 5 anni d'attività, dove li metto il mio gruzzoletto di clienti? Dove? Me lo devi dire tu, Conte, dove li devo mettere? Come devo campare, Conte? Che a me non mi date neanche 600 euro. Dimmelo tu me lo devi dire, cornuto, fiduso, fradicio, burrito, ladri, mafiosi, siete dei mafiosi, sei un dittatore tu, Perché? Schermata, disinfettanti, guanti, maschera, mascherina in plexiglass, tutto, ma fammi lavorare, cornuto, fradicio, fittuso, come sto un altro mese a casa, come mi tieno un altro mese a casa, burrito, cornuto, crasto, crasto, come tu dico in siciliano, vatti a fare la traduzione, for taxi, recovery fund, mettitele in zaccoccia, mettitele in zaccoccia, che ci hai fatto morire di fame con la burocrazia, manca arrivano sti soldi. Giuda, la gente è incazzata, Davide, non puoi non capire questa roba qua, non la ma lo capisco, non puoi non capirla, sì, ma ho capito, certo, lascia perdere che dice cra, e tu, cioè, e lui a seconda, e non lui è che a seconda, è che seconda. Sei incredibile, guarda, sei incredibile, io sono incredibile, mandi in onda il delirio e io sono incredibile. Stipendi d'oro, i vitalizi, le diarie, c'avete la pensione aggiuntiva dei parlamentari di 1.000 euro in più, io per fare 1.000 euro 42 anni di contributi devo mettere. Vergognosi, maledetti, è un popolo di burattini, di marionette, questo è il popolo di marionette. Allora popolo, non rompete più la minchia anche voi, dovete reagire. All'INPS non pagherò più un contributo, perché tanto non avrò una pensione, perché la pensione aggiuntiva già è una mia pensione che un giorno prenderò sui 900-1000 euro, andrà con i 5 anni di legislatura ai parlamentari che non l'hanno manco tolta questa pensione, e io mi devo ammazzare e pagare l'INPS 4.000 euro all'anno, e quindi sono 3 anni che non li pago, perché cosa, per non avere manco 1.000 euro di pensione, mi piglio chi da sociale. Ho strappato l'Inps oggi! Ho strappato l'Inps! E mo la chiamiamo! E mo la chiamiamo, Davide! Ma è necessario proprio, necessario! Sì, dai! Pronto? Pronto? Sì? Chi è, Emilia? Sì. Come stai? Sono Cruciani. Ah, ecco, ci risentiamo. Come andiamo? Ma come dobbiamo andare secondo te? Ma che ne so, sei incazzata e ho sentito che vuoi riaprire. Cioè, vuoi riaprire, certo, il centro estetico. Ho capito, non si può, amica mia, fino al primo giugno. Ma non riapre? Si riapre, ma non si può. No, io che c'è pure Parenzo, ascoltami, per favore. Certo. Oggi, ma non si può, non fino al primo andare. Giugno non si può. Non si può, fino al primo giugno, questo è. Io, questa si chiama resistenza, ok? Io non posso più stare alle condizioni di un presidente del Consiglio abusivo, perché è abusivo. Che dopo 2 mesi che non mi manda manco un centesimo, e si scusa tra l'altro, perché 600 euro a me non mi cambiano la vita, giusto, non questo mi cambiano è giusto, la vita, di rimanere a casa, io con le giuste dovute misure di restrizioni aprirò. Ho capito, però arriveranno. Ma non può. La disinvestazione. Arrivano i carabinieri, arrivano i carabinieri e ti fanno richiudere, ti becchi pure la multa. Anche la multa. E me la paga conto la multa, me la pagherà lui la multa. Comunque, capito? Parenzo, sei incredibile. Io lo denuncio perché pubblicamente. Cosa? Ma perché cosa? Non si può permettere di tenere un popolo così abusivamente, perché lui è un abusivo, non si può permettere di tenere le persone a casa senza nessuna tutela, anche economica. Comunque, la cosa incredibile è un'altra, caro Parenzo. Tu, ripeto per l'ennesima volta, tu fai i collegamenti per la 7 su un terrazzo, enorme terrazzo romano, ricevi tranquillamente i soldi, il tuo bonifico mensile, perché lavori, per carità, però ricevi tranquillamente il tuo bonifico mensile, sei, come dire, protetto, hai tutti i soldi che ti arrivano, lo stipendio, eccetera, eccetera, e stai denigrando questa povera estetista, stai denigrando... Parenzo, non mi devi denigrare, te lo dico io perché è fittuso di Conte, a tutte noi categorie che siamo artigiani, commercianti, ecco, l'Inpsi, quando si deve mandare l'Inpsi, le rate, l'Inpsi, caro Parenzo, sai com'è, puntualissima, l'Inpsi, la famosa Inpsi, quando ti soldi invece, che ho sei in trincea, non stai manco un centesimo, capito? Ho strappato l'Inpsi, però no, te lo dico io, aspetta. Sì. Ma dobbiamo fare audience, te lo dico io. No, che odio. Ho strappato l'Inpsi. Però questa è una tragedia, signora. Con 42 anni di contributi che devo andare a versare all'Inpsi, avrò neanche 500 euro. Tu sei un parlamentare con una pensione aggiuntiva prenderà 1000 euro. Hai capito, parente? Tu il culo ce l'hai coperto. Brava, brava, e lì arriviamo. Sono parlamentare, e lì arriviamo. Per me puoi essere un giornalista, puoi essere abusivo, per me puoi essere un dipendente di qualsiasi cosa. E lì arriviamo. Diciamo, tu l'hai visto per caso il collegamento oggi con la 7, col maglioncino? Col maglioncino. Non l'hai visto, vallo a vedere e guarda la differenza che c'è tra Parenzo, tra te, un parrucchiere e altre persone che sono costrette a fare la fame. Perché Parenzo, ascolta, ma che ti sembra che sia stato solo tu nella vita? Ma che ti sembra che non ho capito perché il problema improvvisamente sono diventato io. Non capito come improvvisamente la storia è girata contro di me. Ma io non ho capito niente, dico semplicemente che la signora parrucchiera, alla quale va tutta la mia stima, l'estetista, quello che è estetista parrucchiera, purtroppo quei mestieri... Per non onore, capito? Ma non ho detto semplicemente che l'amica estetista, la stai denigrando. L'amica estetista, l'amica estetista, ma non la stai denigrando. Vabbè, comunque andiamo. Siete pazzi, ho detto estetista. Perché lui ti denigra, perché è una cosa inutile. Ma signori, io voi avete bevuto, non ho detto assolutamente una cosa rispettosa, una persona che ha studiato con una bellissima carriera dietro le spalle, che non deve andare a leccare il culo a nessuno per avere quelle 100 euro, ma me le guadagno, capito? La resistenza delle estetiste, la resistenza. La resistenza. Cruciano, sei avanti, ti sei veramente migliorato, ti devo fare i miei complimenti, anche perché ho visto che non ti faccio più schifo, anche perché se non ti faccio più, hai capito la situazione com'è? Il mondo gira, non ha capito niente. Ma ti ha appena detto che non devi aprire, non ha capito nulla, è un demagogo del cazzo quello lì. Ma chi sei tu per dirmi che non devo aprire? Chi sei? Ma non io! L'ha detto Cruciani anche! Ma guarda che qui siamo alla ma chi sei per dirlo? Cruciani ha esordito dicendo non puoi aprire. No, quello perché c'è scritto. E allora non posso aprire, ma io ho detto la stessa cosa, però perché ha attaccato me? Non si capisce. Brava, incatenati. Ciao, ciao Emilia, ciao. Ciao Cruciani, incatenati, avanti tutto. Mi raccomando, avanti tutto. Ok ragazzi, la cosa più bella che ho letto nelle ultime ore è questa, la cosa più bella è questa, c'è un poliziotto, c'è un meme, questi qua che circolano sull'internet, dove c'è un poliziotto con la paletta eccetera, con i guanti e tutto, mascherina, che ferma una macchina e dice a quello che sta dentro, che chiaramente gli dice sto andando dalla fidanzata, e quello dice ma gli vuoi bene veramente a questa o te la scopi e basta? Pensate in che condizione abbiamo messo la polizia e i carabinieri nei prossimi giorni, che fermano uno e dice vado dalla fidanzata, e questo qua che cazzo gli deve rispondere? Guarda, vado da una che mi scopo. Ma non è così. Vado da una che mi scopo. Dite tutti così. Dite tutti così. Vado da una che mi scopo. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ridere. Un'avvertenza. Ho un carattere ferroso, ho un carattere dinamico, ho un carattere ribelle.